giornata di ieri in cui abbiamo parlato delle forze che guidano il cambiamento e oggi abbiamo parlato di valori a un livello, valori tali per cui a un certo punto bisogna smettere di parlare di teorie. In realtà oggi riprendiamo l'argomento perché è diventato importantissimo, quindi attraverso la discussione abbiamo visto che il lavoro al quale spesso ci rifieriamo nelle nostre legislazioni non ha nulla a che vedere più col lavoro così come lo conosciamo oggi, perché formalmente abbiamo il modello fordista che non descrivo, lo conoscete, molto è stato già scritto in relazione ad esso, ma nulla ha a che vedere con ciò che avviene oggi, cioè un'erosione di tutto ciò che conoscevamo un tempo, le erosioni delle aziende, con l'outsourcing, con il networking, con i contratti di lavoro in appalto, quindi tutta una serie di nuove entità. E poi la produzione sta diventando una parte sempre più ridotta delle economie e i servizi sono ciò che aumenta, no? Quindi la forza lavoro non è più omogenea, è frammentata, segmentata, non solo più dominata dall'uomo, ma c'è una femminizzazione, fortunatamente, del mercato del lavoro, cosa che naturalmente crea nuovi problemi, come abbiamo visto questa mattina con l'equilibrio e bilanciamento fra vita professionale e vita privata. E poi il mercato del lavoro dove entrano le nuove tecnologie che erano impensabili formalmente un tempo e che io peraltro non capisco nemmeno oggi, ma la maggior parte di voi naturalmente sì. E poi abbiamo anche qualcosa che ha cambiato proprio tutto, perché formalmente siamo in un contesto nazionale dove si potevano sviluppare e far evolvere le legislazioni sul lavoro. Adesso con la globalizzazione tutto è correlato, interrelato, quindi maggiore pressione sulla forza lavoro con prospettive assolutamente nuove attraverso le quali dobbiamo trovare risposte alle domande dei giorni nostri e quindi siamo alla ricerca di queste risposte e cerchiamo di capire forse come una nuova teoria potrebbe configurarsi, no? Procederemo come segue. Catherine Bernard di Cambridge, Regno Unito, che molti di voi conoscono, non serve neanche introdurla, tanto è nota, ha una fama oramai internazionale e introdurrà lei l'argomento della discussione con i soliti 25 minuti di tempo e le ho detto che non la lascerò parlare un secondo di più. Poi tre paper dei quali vi parlerò in seguito, quindi la Discussant Mia Renmar, Lund, Svezia. E infine il pomeriggio si concluderà con la parte di osservazioni conclusive di Janice Bellacci, United States, Stati Uniti. Quindi Catherine, hai la parola, 25 minuti di tempo per Catherine come massimo. Sì, grazie, è un onore per me, è un privilegio essere qui e grazie anche agli organizzatori per questa conferenza fantastica, dai contenuti interessantissimi. Nonostante Manfred ha promesso una sessione teorica, io adotterò l'approccio teorico bottom up e parleremo della questione della gerarchia delle norme e in particolare il caso studio del direttiva lavoratori distaccati. Parleremo anche di donuts. Beh, capisco che dopo pranzo è difficile parlare di donuts, è un po' forse non è giusto, ma in realtà quello che dirò è un po' tecnico, quindi la rilevanza del donut sarà molto più chiaro fra un po', quindi il ruolo della ciambiella. A parte la ciambella, parlerò della gerarchia di norme a livello verticale e orizzontale, quindi per verticale si intende lo scambio che esiste fra il disposto dei trattati europei e dell'articolo 57 sulla libertà dei servizi, la correlazione alla legge secondaria, la direttiva lavoratori distaccati e la relazione che questa ha con le leggi nazionali. Poi ovviamente questa parte sarà tecnica, ma ci sarà tutta una serie di ci sarà una parte dedicata all'equilibrio di poteri fra l'Unione Europea e gli Stati membri, e poi vedremo anche la questione della gerarchia delle norme vista a livello più orizzontale, trasversale, quindi in particolare i conflitti esistenti fra i diversi attori internazionali, in particolare la Corte di Giustizia, la Corte dell'EFTA, i tribunali nazionali, la Commissione Europea sui diritti sociali e l'ILO. Parlerò di tre casi, famosi per alcuni di voi: il caso STX, il caso norvegese, che è stato portato alla Corte dell'EFTA dell'area economica di libero scambio europeo, e poi la decisione della Corte Suprema norvegese, poi parleremo della decisione del caso LO, un follow-up alla decisione della sentenza Laval, che penso molti conosceranno, dove la Confederazione svedese si è lamentata, contestato il giudizio su Laval. Allora, parliamo prima di tutto della gerarchia verticale delle norme. Ora, per venire al punto che voglio trattare, faccio un po' di storia, diciamo, sulla direttiva lavoratori distaccati, che potrebbero non conoscerne i contenuti. La direttiva parla appunto dei lavoratori distaccati che vengono inviati quindi dalla Lettonia alla Svezia per adempiere a un contratto svedese. La questione qui è quali sono le condizioni di lavoro che si applicano a questi lavoratori distaccati, sono le condizioni lettoni del contratto lettone oppure quelle svedesi. Allora Laval sostanzialmente si concentrava, il caso Laval, su questa questione. Sappiamo appunto che la direttiva lavoratori distaccati dice che fondamentalmente è la legge del paese d'origine, quello del Lettone, eccetto in quelle aree che sono elencate esaustivamente nell'articolo 3.1 AG della direttiva, che elenca una serie di aree di stati ospiti che devono essere applicate ai lavoratori distaccati. Questa direttiva è una direttiva di coordinamento, quindi la legge svedese si applica in questo caso solo se esiste per esempio su una retribuzione minima, quindi è una direttiva molto importante, nonostante sia secondaria, per quanto concerne la giurisprudenza e la legge del paese di origine che si applica, eccetto appunto, come si diceva, nell'articolo 3.1AG. C'è la possibilità che si vada oltre l'articolo 3.1AG della direttiva, ma l'eccezione menzionata, che si riferisce alla politica locale, è stata esaminata nel caso di Lussemburgo e praticamente è ridondante, almeno agli occhi della Corte di Giustizia europea. Ora, di tutti questi termini e condizioni dell'articolo 1AG, quello che dà il maggiore grattacapo è quello relativo alle retribuzioni. E qui vedete tutto il testo, vorrei concentrarmi su alcuni particolari dell'articolo 3, cioè che i paesi ospiti devono assicurare che il distaccamento considere e i termini, le condizioni di impiego coprano anche, fra l'altro, condizioni minime salariali, e quindi si applica la legge di base per quanto concerne i minimi salariali. Ma quali sono questi minimi? Normalmente questi minimi dovrebbero essere definiti in base alla legislazione nazionale, alle pratiche locali. Nella direttiva, pertanto, si ha un riferimento alla legge nazionale per quanto concerne la determinazione del concetto di salario minimo. Ora, questo è il background legale, no? Lo sfondo legale del quale parleremo, ma adesso veniamo alle decisioni del caso STX. Il caso STX è relativo a un accordo collettivo norvegese che stabilisce tutta una serie di disposti, incluso quello relativo alla remunerazione del straordinario, all'allowance, alle spese di vitto alloggio per i lavoratori distaccati. La normativa norvegese dice che, indipendentemente da tutte queste questioni, i lavoratori distaccati beneficeranno di tutto quanto è disposto nella legge norvegese. È stato considerato il caso Laval, appunto, si è ribadito che si sarebbe applicato a ciò che diceva l'articolo 3C della direttiva. Sono stati esaminati tutti i requisiti e si è stabilito se verranno effettuati e come pagamenti in base alla direttiva, e se è necessario che questo sia soggetto a revisione in base al trattato. Infatti, è questo che vengo, questo è il punto conflittuale fra l'applicazione della direttiva e l'applicazione del trattato. Ora, ciò che ho fatto è stato riassumere ciò che ha detto il Tribunale dell'Est, ciò che ha invece istituito la Corte Suprema. Per quanto riguarda le prime due caselle, il Tribunale EFTA ha detto che questo tipo di retribuzione, appunto, è una retribuzione salariale che sì, pertanto applica anche ai lavoratori distaccati, ma per quanto riguarda le allowance non è possibile verificare soltanto se è compatibile con la direttiva, ma anche se è anche compatibile con le disposizioni del trattato articolo 36, gerarchicamente superiore, cioè che ha preminenza, e che corrisponde all'articolo 56 del TFE, trattato sulla libera circolazione, appunto, dell'Unione Europea. E quindi, per quanto concerne il terzo tipo di pagamento, cioè le spese di vitto alloggio durante la trasferta, il distaccamento, la Corte Suprema norvegese fondamentalmente è in disaccordo. Infatti il Tribunale EFTA dice che queste spese non vengono remunerate, quindi non si applicano in base alla legge norvegese, e inoltre non potevano essere considerate come parte della deroga a questo articolo, e le corti norvegesi dovevano seguire ciò che diceva l'EFTA, ma in realtà non erano in accordo, quindi prima avrebbero potuto diventare o essere comunque tutto ciò che era dovuto poteva essere giustificato in base all'articolo 3.10 veniva pagato in base a quello che era il modello norvegese. Si nota quindi uno scambio fra quello che è il trattato e quella che è la legislazione norvegese. Come interagiscono? Ci sono tre modelli che si potrebbero considerare. Il primo è quello che dice: la direttiva è una misura di armonizzazione esaustiva, pertanto si applica esclusivamente la direttiva, e se la Norvegia è in linea con la direttiva non servirà una revisione in base alla norma gerarchicamente superiore conformemente al trattato. Ora, il cherry model, dove si applica la direttiva e non il trattato, appunto il modello, diciamo, della ciliegia, della ciliegina, cioè praticamente dà un grande vantaggio, cioè quello di essere chiaro, sicuro da un punto di vista legale del diritto, ma lo svantaggio è che non rispetta la gerarchia delle sorgenti, perché non c'è possibilità di spazio per l'articolo 56 del trattato. Il secondo modello sarebbe quello di dire, appunto, viene a questo punto valutata la compatibilità della norma norvegese con il trattato, e c'è una seconda parte in questa ciliegina che, anche se la legge norvegese è in linea con la direttiva, deve essere comunque riesaminata, rivista oltre alla norma gerarchicamente superiore in base al trattato. E il vantaggio del secondo modello, quindi questo secondo modello, rispetta anche il principio di gerarchia delle norme, però lo svantaggio rispetto a questo approccio è quello che ci porta delle incertezze, e qualsiasi forma di revisione in base al trattato viene ulteriormente resa complessa dal fatto che la legge norvegese non è accettabile in base all'articolo 56, a meno che non sia giustificata e proporzionata. E quindi sembrerebbe che la Corte di giustizia non sia coerente con questi principi di giustizia e costituzionalità, quindi la legge norvegese è compatibile con la direttiva e non col trattato. Quindi se si è in disaccordo col modello 2, comunque pare che in altre aree ciò venga applicato, ma pare che questo non si applichi al campo dei lavoratori distaccati. Vi è poi un terzo modello che si riferisce alla questione nuovamente della retribuzione, ci ritornerò fra un attimo quando parlerò della direttiva. Quindi, delle tre situazioni, dei tre modelli, qual è quello corretto, quale viene applicato in base alla direttiva lavoratori distaccati? Credo che, siccome la direttiva è complessa, non vi sia una risposta univoca alla domanda, e quindi bisogna in qualche modo considerare la direttiva nelle varie parti. Un articolo importante è l'articolo 3 della direttiva, che dice che in queste aree della legge si applica la legge dello Stato ospite, quindi seguendo a seguito della decisione della giurisprudenza della Valle, questo è l'approccio che è stato adottato dalla Corte di Giustizia. È stato utilizzato solo una parte del modello della ciliegia, si è esaminato prima se la legge norvegese sia in linea con la direttiva e non è effettuata un'ulteriore revisione in base al trattato. Infatti credo che sia il metodo corretto, ma se si legge il giudizio della Val correttamente, sicuramente questo va a sostegno di questa lettura di interscambio fra direttiva e trattato. Ora, quello che sto cercando di dire è che vanno considerate solamente le condizioni e i termini di impiego dello Stato ospite, quindi quelle applicate da questo Stato. Il loro elenco è esaustivo ed è enunciato all'articolo 3, quindi se ci sono termini e condizioni di impiego che non sono in quell'elenco, bene, queste non possono essere applicate ai lavoratori distaccati, in particolare per quanto riguarda i licenziamenti. Quindi nell'articolo 3 della direttiva si applica la direttiva, non il trattato, e credo che questa sia la risposta corretta. Ma ci sono tutta una serie di situazioni che sono al di fuori dell'ambito di applicazione della direttiva, in particolare gli scioperi. Cosa succede se trade union svedesi sono in sciopero, quindi se il sindacato è in sciopero e cosa avviene con i lavoratori distaccati. La direttiva non copre questi casi, quindi questo deve essere esaminato in base all'articolo 56. Non secondo Laval, ma c'è una terza situazione, e cioè la terza situazione è quella che vorrei descrivere adesso, che è quella più complessa fra le tre esaminate. E la terza situazione considera il caso in cui vi sia un'armonizzazione della direttiva, quindi la parte remunerativa, quindi la legge svedese o norvegese può insistere sull'applicazione di questa regola al lavoratore distaccato, ma la direttiva rinvia la legge nazionale. La legge nazionale definisce ciò che si intende come remunerazione. Ricordate l'articolo 3 deciva che si determina ciò che si intende per remunerazione, poi questa viene demandata alla legge nazionale. Quindi come fare a riconciliare direttiva e trattato? Questo mi riporta alla mia ciambellina. Non l'ho fatto per diletto, anche se il rosa mi tira un po' su, ma la parte rosa è l'area armonizzata e la parte rosa è quello che è stato determinato dalla direttiva dei lavoratori distaccati. Il ritorno alla legge nazionale è il voto che c'è in mezzo, ed è questo che fa l'articolo 56. Ora, questo va tutto bene se lo si guarda su un'immagine come questa, ma poi bisogna cominciare a pensare a quello che può essere il salario. Questo terzo modello in cui si ha la direttiva che si applica solo alla ciambella, il trattato che si applica alla parte vuota e mezzo, beh, questo secondo me è quello che la Corte EFTA cercava di ottenere, di trattare nella sua decisione sull'STX, nel definire il contento delle regole obbligatorie. Gli stati della EEA sono obbligati a rispettare l'articolo 36, e l'articolo 36 è il requisito della libera circolazione dei servizi. Quindi il contenuto è il foro all'interno della ciambella, e questo viene esaminato dall'articolo 36, ma adesso c'è un problema, quindi, e questo è un problema che ci riporta al problema delle competenze, perché come noi sappiamo il salario è una questione molto sensibile, è stata esclusa dalla portata della competenza dell'Unione Europea secondo l'articolo 135.5. Il problema è che mantenendo i salari all'interno della legge nazionale può essere rivisto attraverso l'articolo 56 con tutte le incertezze che questo comporta. Inoltre, questo implica che la direttiva non è così chiara come sembrava essere, quindi questa interinfluenza tra il trattato e la direttiva è molto importante per gli stati membri, molto problematico, ed è problematico anche per l'Unione Europea, perché se gli stati membri diranno beh, tutto è salario, la pensione, la maternità, tutte le indennità sono salario, allora questo potrebbe minare la libera circolazione dei servizi, quindi forse sarebbe meglio se la Corte decidesse di rivedere tutto questo secondo l'articolo 36. La Corte di Giustizia l'ha già fatto, ha deciso da solo che cos'è il salario. E ci sono cose che non sono salario, tipo le spese di viaggio, nel caso STX, e la Norvegia quindi non può applicare tutto ciò per i lavoratori distaccati. Quindi è molto difficile affrontare la questione della gerarchia della legge, e ha implicazioni molto serie sull'equilibrio delle competenze tra l'Unione Europea e gli Stati membri. Ora, come abbiamo visto, la Corte Suprema della Norvegia è in disaccordo, è stata in disaccordo con la Corte EFTA per quanto riguarda il caso dell'STX. Erano in disaccordo sul fatto che le spese di viaggio, di vitto e alloggio fossero comprese e se l'articolo 10 doveva essere applicato. E questa è la prima volta che una Corte nazionale è stata così apertamente in disaccordo con quello che è stato deciso dall'Unione Europea e dalla Corte di Giustizia Europea. Ma questo ha gettato le basi per delle dispute, per delle vertenze più profonde tra le varie istituzioni internazionali. Noi sappiamo che la Corte di Giustizia Europea è stata criticata da vari gruppi di esperti dell'OIL e c'è una critica molto aperta della Corte di Giustizia alla Corte di Giustizia per quanto riguarda il caso di Laval. E fondamentalmente cosa ha detto la Comunità Europea per i diritti sociali? Ha detto: come ha osato la Corte di Giustizia dare priorità alle libertà economiche rispetto a quelle sociali? Noi che siamo la Commissione Europea per il rispetto dei diritti sociali critica appunto questo punto. E quindi abbiamo una critica diretta della Corte di Giustizia Europea da parte della Commissione Europea per i diritti sociali. Ma per quanto riguarda la Convenzione Europea sui diritti umani c'è quello che viene chiamata la presunzione del Bosforo, e cioè se uno Stato membro è in accordo con la legislazione europea e se la legislazione ha gli stessi standard di protezione dei diritti umani, allora la presunzione è che quello che lo Stato sta facendo è compatibile anche con la Convenzione europea sui diritti dell'uomo. La presunzione del Bosforo si applica anche sui diritti sociali? Questo assolutamente no, dice il Comitato europeo, perché la sostanza della legislazione europea e processi attraverso i quali viene generato non giustificherà la presunzione di conformità con gli atti legali e i regolamenti dell'Unione Europea con la Carta Sociale Europea. E quindi sono stati molto critici di tutti gli aspetti della legislazione svedese che portava alla decisione del caso Laval. Ora ci sono dei paralleli diretti con un'altra giurisprudenza che si chiama Cadi, ma non ho abbastanza tempo per parlarvene. Tuttavia voglio concludere a questo punto la mia presentazione. Abbiamo uno scontro tra la Corte EFTA e la Corte Suprema norvegese. Ma perché c'è questo scontro? Beh, questo è ben spiegabile sulla base del fatto che la Corte EFTA, come la Corte di Giustizia Europea, sta cercando di promuovere la libera circolazione dei servizi con l'idea che i lavoratori distaccati, lituani, estoni o lettoni, abbiano il diritto di lavorare negli altri paesi anche se non con tutti i diritti sociali. Questo è il punto di vista del mercato unico ed è per questo che la Corte EFTA non è in pronta a dire che la Svezia e la Norvegia possono estendere tutte le protezioni, tutte le tutele del lavoro a tutti i lavoratori distaccati. Ma l'Unione Europea considera i lavoratori distaccati come vulnerabili, quindi devono ottenere la massima protezione secondo lo spirito norvegese. Come può essere risolto questo scontro? Attraverso il dialogo, già un dialogo è in corso, la Corte EFTA ha tradotto la decisione della Corte Suprema norvegese, l'ha letta, e poi c'è il caso Johnson di fronte alla Corte Suprema norvegese, e adesso c'è un ricorso da parte dei lavoratori all'autorità di sorveglianza EFTA. Quindi, per quanto riguarda questo scontro tra la Commissione Europea sui diritti sociali e la Corte Suprema norvegese, beh, io credo che il Comitato Europeo per i diritti sociali abbia detto chiaramente che non c'è nessuna possibilità di trovare un accordo, e qui la Realpolitik potrebbe avere un ruolo da svolgere, perché alla fine la Commissione sui diritti sociali non ha nessun strumento per sanzionare il governo norvegese, e forse ci può essere un po' di dialogo se la Corte di Giustizia fosse un po' più empatica con i diritti umani o con la giustizia sociale, ma bisogna aver pietà degli amministratori, soprattutto i governi, che devono adesso che devono in qualche modo riconciliare gli espressi locali e tutte le decisioni. E questo ci ricorda che questi scontri costituzionali, che noi come esperti di legge amiamo moltissimo, non aiutano coloro che sono coinvolti nell'amministrazione della legge. Grazie. Thank you very much, Catherine. I think you have raised... Beh, lei ha sollevato diverse questioni che sorgono quando si ha una disposizione così ampia di istituzioni dove ci sono diverse gerarchie delle fonti. Io non sono sicuro di essere d'accordo con lei, quindi voglio essere un po' provocatore. Il suo modello, dove lei dice che per quanto riguarda la direttiva dei lavoratori distaccati, l'articolo 3, bisogna esaminare questa direttiva e dimenticare invece completamente i trattati. Beh, questo in linea di principio potrebbe essere giustificato, ma non dobbiamo dimenticare che la maggior parte di queste direttive, tra cui quella sui lavoratori distaccati, sono state elaborate prima di aver questa Carta dei diritti fondamentali di cui ci ha parlato Edoardo Alessi. Ed io mi chiedo, perché non ritornare alla Carta? Perché forse la direttiva non è in linea con questa Carta. Abbiamo la direttiva sulla protezione dei dati, è un bellissimo caso che probabilmente verrà uccisa, per così dire, dalla Corte di Giustizia Europea, perché non è in linea con la Carta. Lo stesso vale se prendiamo l'articolo della Carta che tratta delle condizioni del lavoro in linea con la dignità umana. Quindi io mi chiedo, non dovremmo forse sempre essere aperti per un secondo morso alla ciliegia sulla base della Carta? E poi la seconda domanda è, possiamo portare all'interno della discussione anche il Comitato sui diritti sociali? Sappiamo che è un comitato e non è una non è un tribunale, ha il compito di, all'interno del Consiglio d'Europa, di preparare delle decisioni per il Consiglio dei Ministri. Quindi io non vedo come quello che dice il Comitato possa avere una rilevanza per questi tribunali, per queste corti. Grazie per questa domanda. Io credo che per quanto riguarda la questione della Carta, beh, io credo che la Carta non farebbe nessuna differenza, nonostante abbia capito bene quello che intende, perché la Carta, come ci ha detto questa mattina, ha bisogno di un equilibrio da una parte tra i diritti sociali fondamentali e dall'altra il diritto d'impresa, la libertà d'impresa. Quindi io credo che nella direttiva sui lavoratori distaccati, ma anche sulle decisioni di Laval, alla Commissione di Lussemburgo, La direttiva stessa è la manifestazione di questo equilibrio tra interessi in competizione. Sono d'accordo con lei su questo, ma la mia domanda è il metodo. Dobbiamo rifare riferimento alla carta? Ma io credo che noi sì, dobbiamo rifare riferimento alla carta, naturalmente, ma noi sappiamo fino a questo punto che la Corte è stata molto silenziosa rispetto ai diritti sociali. Una domanda per volta. La Corte è rimasta in silenzio rispetto al ruolo dei diritti sociali, nel contesto molto specifico dei lavoratori distaccati. Io direi che la decisione di Laval, non quella di Viking, ho problemi con Viking, ma la decisione sulla Laval è stata piuttosto intelligente dal punto di vista della Corte di Giustizia, perché la Corte ha in qualche modo salvato la direttiva. Avrebbe potuto dire che l'articolo 3 viola l'articolo 56, in questo modo avrebbe reso invalida questa direttiva, annullato la direttiva. E il compromesso ottenuto sulla Val è stato un ottimo compromesso, considerando il punto di vista della libera circolazione dei servizi. Io non credo che in questo caso in particolare la carta non farebbe nessuna differenza, perché la Corte non vorrebbe cambiare questo equilibrio che è stato raggiunto grazie al caso Leval. Molte persone non amano Leval, io so che il movimento sindacale svedese non lo ama, ma io credo che da un punto di vista del mercato singolo unico è un buon risultato. Dobbiamo fare riferimento alla carta? Sì, si può fare, ma non credo che farebbe una differenza in questo settore. Invece, per quanto riguarda quello che ha detto sul Comitato Europeo sui Diritti Sociali, non è un tribunale, non è una corte, anche se sembra cada nelle stesse trappole di una corte. La decisione è stata recentemente portata all'attenzione dei politici e sono stati molto cauti, infatti, e non si sono intromessi nella questione svedese o rispetto a ciò quanto affermato dalla Commissione. Hanno detto sta la Svezia a risolvere e noi aspettiamo che lo facciano. Quindi c'è un gap notevole. La decisione è stata presa a luglio e ancora a novembre la soluzione non era stata presa, quindi bisogna aspettare una risposta concreta, ma la Corte di Giustizia Europea naturalmente ha molto più potere in questo, e se lo Stato è conforme ad essa, in realtà ci potranno essere forme per citare coloro che non sono in conformi. La Realpolitik fa vedere che la Corte sui diritti sociali sta alle calcagna, sta loro alle calcagna, ma in realtà se ci fossero maggiori nuance di approccio probabilmente ci sarebbero modalità di riuscire a far rientrare ciò che dicono nella direzione della direttiva, ma siccome la relazione è stata di confronto abbastanza stretto, non c'è stata possibilità di manovra, quindi per quanto riguarda la strategia politica, quindi da un ente non giuridico, direi che in realtà è come se si fossero sparati da soli un colpo sui piedi. Dibatteremo le questioni più avanti, apriremo la discussione dopo, se ci fosse qualcosa di veramente urgente da discutere ora d'accordo, ma se fosse possibile preferirei proseguire. Vedo che nessuno ha un'urgenza in questo momento, quindi iniziamo con i selected papers che annunciavo prima, e quindi posso dire che tre sono le relazioni che discutono argomenti e dibattono argomenti molto diversi, quindi in realtà non si tratta di una evoluzione dello stesso argomento, ma in realtà iniziamo con un nuovo argomento. Michael Fischel, seduto qui accanto a me, viene dall'Università del Connecticut e considererà la questione, lo scenario che si presenta negli Stati Uniti. Qui discuteremo questioni concettuali che ha riassunto sotto il titolo Teorie legali e legge statunitense sul lavoro, una visione dal centro radicale. Adesso sentiamo che cos'è il centro radicale. Allora lasciamo la parola a Michael or Michael Fisher. Sorry. No, not at all. So let me join every other speaker in. Va bene, mi unisco a tutti gli altri oratori nel ringraziare naturalmente Jacopo e Jenny e tutti i membri della fondazione per aver consentito la realizzazione di questo evento di grande successo. Ho imparato moltissimo da ogni singolo panel e la mia relazione sarà sulla teoria legale nella legge statunitense, il sottotitolo come avete sentito è dal centro radicale e il centro è un posto piuttosto scomodo in cui stare in questa situazione, ma la posizione si ispira alla richiesta di paper che è stata distribuita allo scasso autore. Description of the dilemma that this conference. E anche il dilemma in particolare. Il dilemma, cioè se da un lato la legge sul lavoro deve essere portata a un campo più neutrale, la common law è un esempio, oppure se debba essere difesa dal è modificata in modo da riflettere la natura cangiante dei vari interessi e delle varie identità. Queste due possibilità hanno somiglianza con le sfide attuali della legge sul lavoro che ci viene da entrambe le parti dello spettro politico statunitense, quindi da un lato, come nel resto del mondo, ci troviamo di fronte a un ritorno neoliberale, una combinazione di fervore antiliberale, una rivitalizzazione della common law del XIX secolo, come se il realismo legale non fosse mai esistito. E nuovamente, come la maggior parte del mondo accade, i sindacati hanno bandito la nozione di assorbire semplicemente la legislazione sul lavoro nel corpus della legge privata statunitense, che in realtà fa sparire un po' tutto. Cosa che piacerebbe a un segmento sostanziale dell'elite politica. D'altro canto, la sinistra americana e forse anche la sinistra accademica ha abbandonato le cause di lavoro in favore invece di altre tematiche, in particolare dell'identità, della questione dell'identità. A livello in modo straordinario, anche imbarazzante, questa potrebbe essere una reazione ai sindacati newyorkesi, dove molti degli accademici sono cresciuti, si sono fermati e oggi lavorano. Ma oltre a questo vi è tutta una situazione scomoda rispetto all'organizzazione del lavoro in merito a questioni di genere, razziali, come pure la forte impazienza e lo scetticismo basato sul conflitto e la confrontazione, il confronto. Ecco perché mi sono trovato proprio al centro di questo modello nel realizzare la mia attività e la mia opera, come si è descritto ieri mattina, mi sento come una persona che venga a trattare queste tematiche da un ambiente totalmente diverso. In questo caso io vengo dal nord, quindi non le capisco molto bene. Adesso, negli Stati Uniti la common law costituisce il problema per quanto concerne le normative, la regolamentazione sul lavoro, e non è la soluzione al problema. Invece c'è una documentazione forzata fra le organizzazioni collettive, le strategie di resistenza e le strategie legali che si concentrano sulla natura cambiante, mutevole, sugli interessi e l'identità dei lavoratori americani. La mia presentazione sfortunatamente può trattare solamente uno dei due argomenti in dettaglio, quindi mi concentrerò sulla questione common law per la massima parte, ma anche accennerò provocatoriamente alcune osservazioni sugli interessi e le identità. Quindi tre osservazioni. La prima, la parte più cospicua delle organizzazioni sindacali negli Stati Uniti hanno coinvolto le persone di colore e gli immigrati e le donne nelle posizioni salariali più basse. Questo non perché non soltanto perché il movimento sindacale statunitense si è trovato in un momento di particolarmente positivo nel trattare queste questioni, ma è stato chiesto per esempio una volta a un ladro perché svaligi le banche, lui ha detto beh perché i soldi stanno nelle banche, quindi potremmo esprimere la questione nello stesso modo. Ci sono anche dati demografici che ci fanno capire perché sono determinate persone ad assumere determinate posizioni, per esempio le posizioni lavorative peggio pagate, perché appunto ci sono queste posizioni, sicuramente non perché lì ci sono i soldi, come nel caso della rapina in banca. In realtà la minaccia dell'era post Thatcher è quella di cercare di portare il lavoro altrove. È molto difficile però portare il lavoro altrove se il lavoro è un lavoro genitoriale o di assistenza di badanti, assistenza agli anziani, quindi servizi più precari. Voglio vedere quale sarà il giorno in cui questo lavoro verrà fatto, arriverà da altre parti, ma oggi questo rappresenta una delle sfide più difficili da risolvere per tutti noi. Ma le organizzazioni collettive sono la fonte potenziale di potere maggiore che ci consente di esaminare queste tematiche, come in questa sessione, in una delle sessioni parallele di ieri, e assicurare i diritti legali a coloro che sono nella fascia più bassa della scala economica della società, problema che impatta non solamente sulle leggi sul posto di lavoro, sui salari, eccetera, sulla sicurezza, ma anche l'accesso alla legge antidiscriminazione, che potrebbe mantenere alcune delle promesse per questi gruppi, per queste categorie di lavoratori, ma vorrebbe dire smantellare le class action di fronte alla Corte Suprema statunitense, dove vengono portate appunto alla cui attenzione vengono portate queste case di lavoro. C'è poca possibilità di ricorso alla legge per coloro che sono nelle fasce più basse, data anche i costi enormi di per fare cause individualmente, e se si riesce comunque agli alti costi e a quanto poco si recuperi in caso si riuscisse a farlo. Il terzo punto sull'argomento è che io descriverei la legge rispetto a tali lavoratori non ha un valore procedurale o sostanziale, ma comunque è una forma di strategia di self-help dove si utilizza la violazione dei diritti legali come strumento organizzato, utilizzando le agenzie amministrative come il National Relations Board per riuscire ad avere il controllo sulla situazione, in particolare per garantirsi la funzione immunizzante di azioni di boicottaggio e di altre azioni di carattere collettivo. Il self-help collettivo è stato sicuramente un beneficio della legge sul lavoro come fonte di creazione di solidarietà, di strumenti di solidarietà. So let's turn to the common law, to which I will devote the rest of my E adesso vediamo il resto della mia relazione con alcuni commenti e inizierò con l'ambiguità dell'espressione the common law, quando utilizzata in contesto statunitense. Da un lato si tratta di un riferimento storico a quel corpo di leggi che vengono dall'eredità britannica, ma c'è un altro elemento di ambiguità, perché infatti a volte l'espressione storica si riferisce alla radice britannica, in particolare a quella della fine del XIX secolo, quindi significa un regime di contratto privato, proprietà privata e regolamentazioni e normative minime, che sia bene o male, dipende naturalmente sempre dal punto di vista di chi lo prende in esame. Ma naturalmente la common law ha un significato diverso per il mondo legale statunitense, che in effetti c'è la modalità di default di normative legali negli Stati Uniti anche oggi. È una legge che si basa sulle decisioni dei giudici e questa è subordinata allo statuto, alla legge, mentre la legge dello Stato è subordinata alla legge federale e nazionale. Concettualmente però entrambe sono eccezioni, quindi è la common law dello Stato è quella che prende, che ha precedenza. A differenza delle regolamentazioni in eccezione o le leggi in eccezione di cui abbiamo sentito parlare stamani, quindi probabilmente il riferimento alla common law può essere visto da un punto di vista storico oppure può essere inerente alla governance contemporanea, e qui io dico che c'è molta ambiguità ancora oggi. Questa evocazione della storia e le forme della governance contemporanea danno alla common law statunitense molto di più in termini di potere concettuale. Ora veniamo al ruolo della common law nella legge statunitense. La common law storica ha sempre avuto il ruolo del cattivo, cioè il cattivo nella versione convenzionale della storia del lavoro degli Stati Uniti, cioè una storia della common law del XIX secolo caratterizzata in particolare dalla regolamentazioni che consentivano al datore di lavoro di licenziare per qualsiasi motivo, in qualsiasi momento, che fosse per qualsiasi buona o cattiva causa, per nessuna causa. E questo naturalmente non lasciava nessun diritto ai lavoratori, se non quello di dormire sotto i ponti. Nel XIX secolo ci furono una serie di riforme statutarie a livello federale, della riforma del lavoro come l'atto Wagner, lo statuto antidiscriminazione del 64, la protezione detta whistleblower, e nel XX secolo tutto quanto è stato determinato dai tribunali di Stato. Quindi è una storia che ha cercato di eliminare appunto la figura dei cattivi all'interno della legislazione della common law. Ma c'è una seconda storia che spesso viene taciuta, ed è la storia del cattivo che se la ride per ultima, no? Ride bene chi ride ultima, ed è la storia associata con un professore che si chiama James Atkinson, e il libro scritto nell'83, Values and Assumptions of American Labor Law, era il titolo. Nessuno dovrebbe mai confondere questo, per la versione americana, dei valori, degli interessi, come abbiamo sentito dire stamani. Allison non parlava della dignità, della libertà, dell'uguaglianza, della solidarietà, parlava dei valori e degli assunti della legge giuslavorista americana. I suoi assunti erano fondamentalmente legati al controllo nella legge, nella master law statunitense. Il punto era la sovversione della legge Wagner da parte del custode del sistema giudiziario. Per esempio diritto di sciopero piuttosto che contrattazione collettiva ne erano gli elementi fondamentali. Nella seconda storia il cattivo ha la meglio, o almeno sopravvive un giorno in più, infatti dando la supremazia alla common law nell'interpretazione della legge. Adesso dovremmo vedere la common law sotto una luce diversa, nonostante i cattivi. Ma come spesso accade, è il cattivo che viene mal compreso. Per questo motivo a volte è un alleato sorprendente per coloro che vogliono approfittare della situazione. Per esempio, quando i legali invocano la common law a al servizio del, per cercare di ridurre i diritti del lavoro, molto spesso hanno torto, spesso ripensano alla common law come, nonostante sembra il contrario, dato i limiti di tempo che ho, enuncerò semplicemente il paper di Richard Upstein, Università di Chicago, uno dei primi negli Stati Uniti, come, noto come libertario, in realtà la sua voce liberale si è fatta sentire nei circoli universitari, nei circoli più famosi, ritornando a parlare della legge sulla proprietà, e il passaggio aperto del suo paper è: durante il XIX secolo l'area delle relazioni del lavoro era governata da un insieme di leggi che espandevano le procedure legali, non c'erano normative per le casistiche e i casi di lavoro in quanto tali, non c'era un insieme di regole appunto per i labor cases, per le cause legali in quanto tali. È difficile sapere, o è difficile considerare le regole nel XIX secolo in quanto tale. Collected 10 and counting, including Professor Belcher's fellow servant rule from yesterday, but I'll focus quickly on. Mi concentro adesso in primo luogo sulla dottrina dell'impiego così come è stata formulata nel XIX secolo. Le promesse di sicurezza sul lavoro non erano applicabili in base alle leggi e alle normative note nel settore dell'impiego. Se un datore di lavoro impiegava a tempo determinato un lavoratore, questo poteva essere interpretato come contratto a tempo indeterminato e quindi non, che non poteva essere interrotto o a piacimento. Questa regola è una regola di default, veniva criticata dai Williston per esempio, proprio perché queste normative specifiche non erano in accordo con il contratto di common law ed era infatti contro la libertà di contratto. Un altro esempio di questa regola era l'ingiunzione di lavoro contro le azioni di lavoro collettivo, come per esempio il picchettaggio, il boicottaggio del lavoro, lo sciopero. Il rifiuto collettivo ha dato ai datori di lavoro la possibilità di punire questo, in realtà questo poteva essere punito anche con la prigione. Is an illustration by Justice Oliver Wendell Holmes Jr. in his famous Voegelin and Guttner dissent. Imagine that Walmart moves into town. Immaginate che Walmart offre dei prezzi molto bassi, fa chiudere tutti i piccoli negozi e quindi tutti i venditori devono andare a lavorare per Walmart. Ma l'azione. Counter narrative to the familiar story of the 19th century development from status to contract. To be sure, time is. Non abbiamo più tempo, quindi qui concluderò e poi magari nel momento delle domande riuscirò a rispondere. Grazie. Vorrei assicurarmi che il problema di cui parla Michael non è solo un problema statunitense, è il grande problema che fa riferimento a tutti coloro che ancora hanno potere e che ci dicono che non c'è più una relazione asimmetrica di potere nella relazione di lavoro e quindi dobbiamo ritornare al diritto privato, e secondo me questo è un argomento che è molto importante quando si parla di teoria del diritto di lavoro. Ora, devo chiedervi di essere molto flessibili, dobbiamo improvvisare un po' perché ho appena appreso che Catherine Barnard deve andarsene alle 4:30, quindi se c'è una domanda o un commento a quello che ha detto, vi preghiamo di utilizzare questi minuti, ora, poi discuteremo le relazioni durante il tempo dedicato alla discussione. Quindi c'è qualcuno che vuole fare una domanda a Catherine Barnard? Susanna, vieni su, è molto meglio se vieni. Okay, Susanna Bury. Am I pronouncing this correctly? Well, actually, it's Bury because... Bury, yeah. Susanna Bury. Innanzitutto vorrei ringraziarla per la sua presentazione così interessante e per aver mostrato i vari livelli in cui ci sono degli scontri. Il caso che lei ha presentato... Il caso STX riguarda il concetto di salario e sulla base del mio background devo dire che sono rimasta sorpresa che in quest'area non ci sia un collegamento con la grande giurisprudenza che noi abbiamo sul concetto di salario per quanto riguarda la parità di salario tra gli uomini e le donne, e che è un concetto molto molto ampio, quindi questo è il primo commento che vorrei fare e mi piacerebbe sapere come mai questo non è successo. E poi la seconda questione riguarda la libertà che la Corte Suprema di Giustizia norvegese si è presa nel valutare la direttiva contro il caso EFTA. Mi chiedo se questo ha a che fare con il ruolo della Corte EFTA, ma come si spiega che la Corte Suprema norvegese si è presa questa libertà in un aspetto così importante? Il caso della Corte EFTA era piuttosto chiaro e anche la sua decisione era piuttosto chiara. Grazie per le sue domande. Per quanto riguarda la questione dei salari o delle retribuzioni, è una cosa a cui ho pensato anch'io, perché chiaramente il parallelo con la parità di salario è piuttosto ovvio, ma bisogna considerare i contesti. La situazione dei lavoratori distaccati sembra essere più collegata, radicata nella libera circolazione dei servizi, mentre per quanto riguarda la parità di salario ha a che fare con i diritti sociali. Quindi la direttiva doveva essere interpretata a favore dei lavoratori e ci è voluto la decisione della Corte sul Naval per far capire che tutti gli esperti di diritto del lavoro si erano sbagliati. La regola fondamentale è che i lavoratori distaccati devono essere distaccati dal paese d'origine al paese ospite e quindi sono le regole dello stato d'origine che vengono applicate, invece la direttiva dell'articolo 3 è un'eccezione alla regola fondamentale che di solito indica appunto che c'è il controllo dello stato d'origine, invece questa è un'eccezione che riguarda appunto il fatto che la regola, la legge dello stato di ospite. Quindi è qui che nasce il problema, perché se si dice che il salario include anche l'indennità di malattia, la pensione, eccetera, si rischia anche di mettere in gioco tutto quello che è alla base della libera circolazione dei servizi. E questo Anche il regolamento di Roma 1 dice che i lavoratori temporanei che vanno in un altro Stato è lo Stato del paese d'origine che si applica. Quindi l'articolo 36 del trattato e la regolamentazione Roma 1, tutti e due puntano alla stessa direzione, mirano alla stessa direzione, cioè ad una definizione molto restrittiva del salario. E poi perché la Corte Suprema del Giudice ha fatto quello che ha fatto? Da un punto di vista legale, sicuramente la Corte Suprema non deve seguire o accettare le decisioni della Corte EFTA. Detto questo, secondo gli autori norvegesi, è diventato ormai quasi un obbligo che si accettano le decisioni dell'EFTA. Così almeno l'ho capito io. Quindi in questo caso la Corte ha deciso, anche se cerchiamo di accettare, in questo caso che non riusciamo ad accettare, non accetteremo la decisione. Roger Blanpont. Please breathe. I will be brief. Don't die. I would. I would slightly disagree. Non sono d'accordo sul caso Laval. Il caso Laval era che in Svezia che gli accordi collettivi erano stati estesi. Allora sarebbero stati applicati. Quindi la domanda è: un contratto, un accordo che non è vincolante, diventa vincolante se si applica l'articolo 3, eccetera, eccetera? Ma non si applica perché l'articolo 3 è molto specifico sul vincolo. Sul salario, o attraverso la legge o con degli accordi collettivi estesi. Se i paesi scandinavi come la Svezia non avevano un'estensione degli accordi, non si poteva fare. Per quanto mi riguarda, la direttiva sui lavoratori distaccati non deve essere interpretata in maniera così restrittiva, perché è chiaro cosa si dice nella direttiva. Marco ha lavorato nel 1996 su questa direttiva e ci deve essere un equilibrio. I lavoratori, secondo la libera circolazione dei servizi, non devono minare lo status dei lavoratori locali attraverso un salario più basso. Questo dipende dal sistema nazionale. Se è vincolante, per tutti. Se non è vincolante per tutti, allora non si può applicare sulla base della direttiva dei lavoratori distaccati. L'ultimo relatore e poi una breve risposta di Katrin e poi dobbiamo andare avanti. Yes, very brief. Molto brevemente. Io non voglio parlare del Comitato dei diritti sui diritti sociali, perché sono d'accordo con Manfred, si tratta di due organizzazioni diverse. Quello che il Comitato europeo sui diritti sociali può semplicemente valutare la legge nazionale, la loro decisione era in conformità alla legge precedente svedese. Ma vorrei un po' a questo punto cercare di parlare della dichiarazione su quella che è la regola, quella che è il default e quella che è l'eccezione, perché la direttiva sui lavoratori distaccati si basa su Roma 1, cioè sul diritto privato internazionale. Le regole obbligatorie sono al default, le regole obbligatorie del paese d'origine, del paese ospite, scusate. E questo potrebbe essere considerato il default. Da questo punto di vista io credo che la direttiva sui lavoratori distaccati limita ancora l'applicazione della regola obbligatoria del paese di origine. E per quanto riguarda lo scopo di questa direttiva, accetto quello che ha scritto Paul Davies dopo l'adozione di questa direttiva, e cioè che diversamente da quanto viene detto nel preambolo della direttiva, che questo sostiene la libertà di circolazione dei servizi transfrontaliera, e concludo subito, questo è l'obiettivo reale, quello di proteggere il mercato del lavoro del paese ospite. E questa è l'interpretazione che però sarebbe contro la decisione della Corte. Thank you for those comments. Grazie per questi commenti per quanto riguarda il punto di Leval, la mia interpretazione dell'argomentazione della Corte su quello che la Svezia aveva fatto o non aveva fatto, che la Svezia non ha la dottrina dell'estensione degli accordi collettivi, e quindi, come il Regno Unito, e quindi, poiché la Svezia non era in conformità con l'articolo 3.8, allora l'azione di sciopero intrapresa per applicare l'articolo 3 era in conflitto con l'articolo 36. Allora, qual è la regola e qual è l'eccezione? Ho sentito ciò che mi ha detto sulle regole obbligatorie, ma devo dire che nel caso di Laval, il default era la regola dello stato d'origine, l'eccezione era quella dello stato ospite. Questo dipende dalla lettura dell'articolo 5.6 del trattato, che dice che si tratta di l'eccezione è il controllo da parte dello stato ospite. Questo completa il quadro, che l'articolo 56 è diverso dall'articolo 45, ma questo mi riporta al punto fondamentale, la ragione per cui noi dobbiamo vedere il gioco che esiste tra la direttiva e l'articolo 56 a causa di quello che è l'impatto che ha l'articolo 56, per questo che ho studiato questi casi. Grazie moltissimo, Catherine. Visto che non avremo la possibilità di farlo in seguito perché avremo gli altri relatori, e nel mezzo di una relazione ci lascerà, io vorrei ringraziarla a nome di tutti e le facciamo un bel applauso. Will come from Hungary. Attila Kun ci parlerà, e qui traduco questo titolo così complesso in un inglese comprensibile, ci parlerà delle innovazioni sulla regolamentazione del lavoro, perché lui esamina il nuovo fenomeno nel mondo del lavoro e dice che con i vecchi strumenti noi non riusciamo ad arrivare a niente, e quindi mette in gioco nuovi strumenti. Attila, a lei la parola. Grazie moltissimo, grazie per l'opportunità che mi avete dato di essere qui in questa fondazione, è un grande privilegio per me essere in questo gruppo, soprattutto in questo panel. La mia relazione ha a che fare con il nuovo carattere della regolamentazione del lavoro, espandendo l'ambito del diritto del lavoro, e da una parte l'affronterò in maniera teorica e dall'altra farò delle analisi attraverso degli esempi di regolamentazione selezionati. L'obiettivo sarà quello di presentare o di spiegare come degli sviluppi transnazionali hanno portato a delle soft law o delle forme di controllo sociale che poi adesso si stanno trasformando in leggi scritte. Quindi, dopo tutto, vorrei mostrarvi delle sinergie, delle reciprocità tra la soft law e la hard law. Come vi ho detto, ho selezionato tre casi di studio, li toccherò tutti, e naturalmente io so che queste strategie sono ancora alla periferia del diritto del lavoro, ma io credo, insieme ad altri colleghi, che queste nuove idee di regolamentazione lentamente stanno entrando nel diritto del lavoro, e questi tre esempi sono i seguenti: innanzitutto la relazione tra il diritto del lavoro e il procurement law. La seconda è la relazione tra il diritto del lavoro e i bilanci sociali delle aziende, e seconda è la responsabilità del subappalto, questo tipo di regolamentazione. Ritornando al titolo, qui abbiamo il semaforo rispetto al manganello. Questo titolo vuole simbolizzare, illustrare il ruolo della legge, di come sta cambiando da un punto di vista di queste nuove idee, perché la legge ha un ruolo attivante per l'autoregolamentazione delle aziende rispetto al vecchio tipo di legge che era di comando e controllo. Quindi gli interventi legali adesso sono più dei segnali, dei semafori per le aziende rispetto anche alle manganellate. Quindi innanzitutto i punti di forza di questa regolamentazione, e poi vi parlerò di altri punti. Innanzitutto la legge sugli acquisti. La clausola sociale è una cosa molto importante nel diritto del lavoro, c'è anche un elemento nella convenzione dell'OIL, e quindi può essere inclusa all'interno dei bandi per migliorarle. E quindi di nuovo dobbiamo suddividere tra soft law e hard law. Nella soft law noi abbiamo le grandi aziende multinazionali che possiamo identificare come un acquisto responsabile ed etico nelle società multinazionali, ma allo stesso tempo possiamo trovare dei buoni esempi di come i criteri sociali possono essere inclusi nei bandi e negli acquisti pubblici. Quindi, per riassumere i benefici della legge sugli appalti, sugli acquisti, si può dire che sembra essere una nuova strategia di applicazione del diritto del lavoro attraverso degli incentivi finanziari nelle regolamentazioni sugli appalti. Anche il bilancio non finanziario, quello cioè sociale, può fornire informazioni pubbliche sulle questioni volontarie, e di nuovo devo dire che si tratta di una soft law, non obbligatoria, si tratta delle strategie di responsabilità sociale delle imprese che sono volontarie, e noi parliamo del bilancio di sostenibilità, bilancio sociale, eccetera. Ma ciò che è interessante, vorrei farvelo vedere nella seconda parte della mia presentazione, se il tempo me lo permetterà, in alcuni paesi, in alcune giurisdizioni e anche a livello europeo, da un certo punto di vista questo è diventato quasi obbligatorio, ed è per questo che è così interessante vedere come le soft law e le hard law si stanno riavvicinando. Qual è il messaggio per il diritto del lavoro da queste nuove tendenze? Beh, la responsabilità pubblica, la trasparenza delle pratiche di lavoro e sociali, soprattutto delle grandi aziende, possono facilitare la conformità con gli standard dei diritti del lavoro, ma ancora più importante può motivare, può promuovere una concorrenza positiva tra le aziende che cercano di migliorare la propria reputazione, nel senso che ci sono incentivi alla reputazione per i brands. E poi c'è la responsabilità della catena di fornitura, ci sono delle sperimentazioni sia di hard law che di soft law che cercano di rispondere alle mutazioni strutturali delle organizzazioni e delle aziende, al fatto che i confini tra le imprese sono sempre più sfumati. E noi abbiamo una traduzione legale molto forte su questo punto, perché noi tutti sappiamo che nel diritto aziendale l'appaltatore principale non ha una responsabilità per i diritti dei lavoratori, del subappaltatore, ma d'altra parte possiamo vedere di nuovo che anche sia nella legge soft che in quella hard ci sono nuove sperimentazioni normative emergenti con una certa tendenza, in modo che gli attori piuttosto che il datore di lavoro diretto che sia corresponsabile per assicurare i diritti sociali e di lavoro di tutti i lavoratori nella catena di fornitura. Ma qual è il beneficio per il diritto del lavoro? Questo è il punto che voglio sostenere. Dal mio punto di vista, da questo nuovo tipo di tendenza, possiamo dire che è possibile, attraverso la relazione contrattuale, noi possiamo avere una vera e propria svolta, perché in questo modo la compliance viene ottenuta attraverso degli incentivi relazionali. In qualche modo il rischio della responsabilità porta alla conformità con la regolamentazione. E adesso a questo punto vorrei parlarvi di quelle che sono le preoccupazioni teoriche. Per semplicità vorrei riassumere tutto questo in 10 punti e vorrei sottolineare quelli che sono i punti innovativi di queste tre tendenze innovative. Regulatory strengths that the... Allora, la cosa principale è che tutte vengono dalla corporate social responsibility, non so se questo vada bene o meno, responsabilità sociale di impresa, comunque questo è l'effetto, hanno una radice ideologica e includono la responsabilità sociale. Le aziende multinazionali e le loro pratiche, naturalmente è importante per coloro che si occupano di politica pubblica. Vi sono iniziative importanti di CSR nell'organizzazione pubblica internazionale, troviamo riferimenti ai tre meccanismi nella nuova comunicazione sulla CSR della Commissione Europea, quindi la nuova strategia per il prossimo triennio, e anche nel principi guida sui diritti umani e sulle attività d'impresa troviamo appunto riferimento a queste norme. Il secondo elemento comune di queste normative è che tutte cercano di arrivare alla compliance. Per quanto concerne la legge sul lavoro, sappiamo che questa naturalmente deve andare mano nella mano con le linee guida stabilite, la legislazione, ma in base alle scienze sociali la compliance è un fenomeno complesso che si compone di aspettative legali e non legali, ed ecco perché queste idee sono piuttosto importanti da un lato, ma il punto critico è che in questo contesto queste teorie regolatorie e normative da un punto di vista ortodosso della legge sul lavoro che non introducono nuovi tipi di protezione, di tutela, ma cercano esclusivamente di far sì che la compliance sia più semplice per sua natura. Si inseriscono all'interno dell'idea normativa dell'espansione di un'estesa comprensione della legge sul lavoro, in particolare includendo in essa la liberalizzazione dei meccanismi di regolamentazione come quelle di Arthur, Clara, Langill, Arup, eccetera. Comunque si tratta di una teoria accurata sulla legislazione del lavoro, quindi si amplia il campo di azione e diciamo che tutto questo si introduce all'interno di questo quadro. Il quarto punto in questo flusso normativo è che ci sono dei meccanismi legislativi di tipo non lavoristico da considerare, e questi meccanismi vanno ben oltre gli obiettivi della legge sul lavoro convenzionale, ma possono naturalmente migliorare la compliance in un modo o in un altro, e quindi sono piuttosto interessanti, per esempio vedere come la legge sul public procurement, sugli appalti pubblici eccetera, possa rispondere a questi requisiti. E poi il quinto punto è inerente alle radici teoriche del cosiddetto modello decentrato di nuova governance. Non ho tempo di entrare nei dettagli, però Julia Black, Ole Lobel, Diorick sono fra gli autori più importanti in questo campo. Quindi la nuova governance, brevemente in termine generale, per command and control, quindi un approccio normativo di controllo che è stato che si è imposto in letteratura, e i concetti di nuova governance possono essere discussi come per esempio sforzi collaborativi, partecipativi, innovativi, e con una conversione di pubblico e privato, e con un'orientazione, un aggiornamento ai processi, alla flessibilizzazione. Queste sono le parole chiave della nuova governance. Il punto 6 delle caratteristiche teoriche è la natura riflessiva o responsiva della legge. Sono molto note in letteratura oggi, l'idea qui è influenzare il processo decisionale interno dei datori di lavori con idee normative che legano il public procurement e la legge sugli appalti a questa sezione. Non mi riferisco a standard uniformi, ma in qualche modo all'idea di influenzare la cultura organizzativa dei datori di lavoro in modo, ecco perché viene chiamata legge riflessiva, ed è una normativa top down con meccanismi regolatori basati sulle dinamiche di mercato, per esempio la responsabilità a catena, quindi la misura di responsabilità a catena, ancora 5 minuti, che motiva i datori di lavoro ad essere più diligenti e cauti nel scegliere i subfornitori. E qui vedremo ancora tre o quattro caratteristiche importanti. La settima è appunto una delineazione molto chiara di soft law e hard law, per esempio la funzione pre-law della legge, hard law, diciamo che la soft law viene prima della hard law, ed è un effetto spillover, quindi di diffusione a macchia d'olio della soft law. Qui c'è un processo di giuridificazione che prende piede all'interno di queste teorie, e il punto numero 8 è quello non di trattare il contratto di impiego, ma piuttosto della cultura dell'impiego, considerando qui i cambiamenti e le trasformazioni comportamentali. Il nono, e credo questo sia il messaggio più importante, è cercare di dare nuovi incentivi al mercato, cioè incentivi basati sul mercato. Vedete gli incentivi di tipo reputazionale, basati sul rischio, oppure finanziari, e questi ultimi nel caso della legge sul procurement e sul lavoro, oppure incentivi di reputazione, cioè sul financial report e social reporting e sulla legge del lavoro, oppure incentivi di tipo relazionali o basati sul rischio, per esempio responsabilità della subfornitura, dei contratti in appalto, e questo per cercare di includere anche meccanismi di self-regulation. Questi meccanismi hanno naturalmente, si basano su un mercato un approccio di conformità al mercato in base a quanto si sa dalla letteratura economica e giuridica. Le leggi sul lavoro non possono, hanno bisogno di una serie di business case, e in questo senso va ricercato sempre un business case, perché cerchiamo di impiantare in modo intelligente una dimensione sociale nell'attività di procurement, di subcontracting, eccetera. Salto questa parte per motivi di tempo e vorrei qui invece mostrare alcune sperimentazioni normative sulla soft law e sulla hard law. Purtroppo credo che non arriverò a farlo, quindi ne scelgo uno, se è possibile appunto avere ancora 2-3 minuti di tempo a disposizione, ok, 2. Il non financial reporting, quindi passare dalla soft law alla hard law, per esempio nel reporting di tipo non financial la parte soft è molto ovvia, cioè ci sono i rendiconti annuali sulla strategia CSR delle aziende con tutta una serie di attività di audit di carattere privato, di attività di screening, di rating, awarding, eccetera. Poi abbiamo la Global Reporting Initiative. E in Europa, nella legge europea, quindi venendo sempre più vicini alla legge, alla hard law, abbiamo la direttiva 2003/51 dell'Unione Europea, che è una legge soft ma non chiara, che obbliga gli stati agli obblighi di reporting sociale. Poi ci sono altri stati come la Francia e la Danimarca che hanno introdotto un requisiti di disclosure non finanziaria progressive. Poi la Commissione ha parlato del non financial reporting adottato il 16 aprile del 2013. Probabilmente il tutto non è così semplice, ma ci sono anche delle possibilità di aggirare tutto questo. Purtroppo non ho tempo di presentare tutti gli esempi, ma venendo, purtroppo non posso neanche parlare dei punti critici, non posso saltare tutto, però voglio dire, importante sarebbe parlare di tutte le prospettive e non passare di una cosa all'altra così rapidamente, no? Nuove forme di protezione, per esempio, che potrebbero rendere più efficace le regolamentazioni già in essere, che però non contengono una dimensione collettiva e pertanto privatizzano l'applicazione della legge sul lavoro, quindi non credo siano la soluzione migliore. Questa è la mia ultima slide, dove faccio vedere il messaggio che volevo trasmettere, cioè cosa si può concludere, cosa ci dicono i meccanismi normativi. Stanno cambiando il carattere delle normative sul lavoro, non è legge sul lavoro in senso stretto, ma è legata ad esso, quindi i comportamenti dell'organizzazione del lavoro implicano un cambiamento, il metodo di organizzazione sta cambiando, perché non è più quello di command and control, quindi il metodo del manganello, ma una sorta di normativa light touch riflessiva. E poi gli elementi normativi stanno cambiando, perché le regolamentazioni di Stato sono molto rigide, molto forti, ma tornando al titolo, all'energy of compliance, quindi l'energia della compliance, come ho detto prima, può essere catalizzata tramite incentivi di tipo reputazionale, eccetera. Grazie. Thank you very much, Attila. I think he has offered us a new paradigm. It gives us, of course, ha offerto un nuovo paradigma che porta tantissime domande e molto discussione, ma non ora. Posticipiamo la discussione al momento per la discussione. Mi dispiace, Roger, ma io sono tempo dipendente e alle 4.30 faremo una pausa, ed è per questo che abbiamo l'ultima relazione a questo punto, che è di Michael Sim dagli Stati Uniti, adesso lavora a Chicago, e ci riporterà a parlare di una cosa che abbiamo già discusso lo scorso anno, ma è una cosa che è anche stata citata questa mattina, cioè la contrattazione collettiva transnazionale. Alcuni sono molto scettici e posso dirvi che Michael è un po' più ottimista. proprio ottimista. Ascoltatelo, grazie. Vorrei congratularmi con il pubblico per essere rimasti qui. Io ho spesso parlato per ultimo, io dichiaro la vittoria se ci sono poche tante persone al tavolo quante ce ne sono tra il pubblico. In questo caso devo dire che sono molto contenta e ringrazio gli organizzatori, perché questa è stata un'ottima conferenza e spero di non farvi dormire a questo punto. La distruzione creativa, l'alterazione creativa, non la distruzione. Voi sapete che si dice che la dimensione della torta che è importante è non la distribuzione, ma non è questo, perché la disuguaglianza invece è qualcosa di veramente pericoloso. È strettamente associata all'aumento dei mali sociali di tutti i generi. Uno dei correlati dell'aumento della disuguaglianza economica è che la densità sindacale, la rappresentanza sindacale diminuisce, non ovunque ma in molte parti del mondo. Quindi queste due cose si correlano in maniera negativa. Tanto più aumenta la disuguaglianza, tanto più diminuisce la sindacalizzazione. Sullo sfondo della discussione di ieri e di oggi ci porta a cominciare a parlare della voce collettiva rispetto a quello che abbiamo sentito finora. Io credo che i sindacati devono cominciare a spostarsi verso l'alto, non verso il basso. Io non credo che le norme legali siano la risposta a questo problema. Perché c'è questo movimento verso il basso? Vediamo i motivi. Ci sono dei sindacati nazionali che sono collegati all'economia nazionale, che stanno perdendo la loro capacità di tenere sotto controllo l'economia. Quindi non è sorprendente che i sindacati, così come le norme nazionali, anche i confini nazionali, stanno cominciando a sparire. Le istituzioni nazionali diventano più deboli, così lo fanno anche i sindacati nazionali. Io vorrei parlarvi un po' invece, a questo punto, di un ulteriore problema. I sindacati nazionali sono organizzati per l'occupazione dell'era industriale, invece ora ci stiamo spostando verso l'era dell'informazione. Quindi la globalizzazione ha aspetti, molti aspetti. Uno di questi aspetti è che l'era dell'informazione ci dà l'opportunità sia ai datori di lavoro di essere molto contingente. Cosa hai fatto per me ora? Cosa puoi fare per me adesso? E non cosa hai fatto nel passato. La fidelizzazione, la fedeltà non è più importante per i datori di lavoro. La gerarchia tradizionale delle organizzazioni, in questo caso i sindacati aiutavano i datori di lavoro a regolamentare una grande organizzazione. Ma le grandi organizzazioni stanno scomparendo nell'era dell'informazione. Voglio darvi un esempio di Chicago. Il terzo grattacielo più alto a Chicago è la AN Tower, che ha 65 dipendenti a Chicago. E dov'è la sede generale? Da ormai un anno e mezzo la sede è a Londra e quindi si tratta solo di spostare 16 famiglie dei direttori che devono stare a Londra per 6 mesi. Adesso abbiamo EAN che trae vantaggio da centinaia di milioni di dollari di benefici fiscali. quindi è bastato spostare 16 persone, 16 famiglie e si è raggiunto questo obiettivo. Jacques Chocogeau ha detto che il datore di lavoro è ovunque e da nessuna parte, ed è questo che sarà, che succederà nel futuro. In questo contesto i sindacati non riescono a corrispondere alle aspettative. Voglio a questo punto parlare di due alternative possibili, due modi di affrontare questa nuova situazione per i sindacati. La prima mi è sembrata una vera e propria sorpresa, perché il trasporto via mare sembra essere l'ultimo datore di lavoro transitorio. Una nave può prendere la bandiera di un'altra nazione e desindacalizzarsi da un paese all'altro. Quindi si potrebbe pensare, il trasporto via nave è desindacalizzato, ma questo non esiste negli Stati Uniti, per esempio, perché c'è troppa concorrenza altrove. Ma l'oil, in maniera sorprendente, perché visto che si è sempre concentrato sulla legge nazionale, si è concentrato invece sull'occupazione marittima, e la convenzione marittima più recente sembra essere un vero capolavoro. Io molto spesso critico l'oil, ma in questo caso devo dire che hanno fatto il primo vero sforzo per la sindacalizzazione transnazionale, e potrebbe anche funzionare. È entrata in vigore a settembre, ma già copre 56 paesi che hanno ratificato, e questo copre più della metà di tutti i lavoratori sul mare. Cosa dice l'OIL? Stabilisce, con un approccio piuttosto convenzionale, stabilisce degli standard di lavoro molto elaborati, molto alti, che si applicano a tutte quelle navi che hanno la bandiera di un paese che ha ratificato la convenzione. Quindi in questo modo bisogna rispettare che tutte le navi siano in conformità a questi altissimi standard. Questo ci dà l'opportunità, e dà l'opportunità ai sindacati. Gli scettici diranno, alla fine uscirà tutto dal fondo, perché appunto è possibile cambiare bandiera, ogni proprietario di nave si sposterà da uno Stato che ha ratificato la Convenzione in uno Stato che invece non ha ratificato la Convenzione. Ma la parte più intelligente di questa convenzione è necessaria la conformità anche per quei paesi che hanno la bandiera di un paese che non ha ratificato la convenzione. Quindi quando si entra nel porto di uno Stato membro del trattato, allora quello Stato deve ispezionare la nave per determinare se gli standard di lavoro che sono applicati su quella nave sono più favorevoli o meno favorevoli rispetto allo standard di lavoro dei paesi che hanno ratificato la convenzione. Quindi alla fine tutti sanno che il tempo è denaro nei trasporti, e le spese, il tempo necessario per ispezionare le navi nei porti crea un grande incentivo a coloro che hanno una nave bandiera di uno Stato che non è ratificante, a spostarsi in uno Stato ratificato, e cercare piuttosto di costringere il proprio Stato a ratificare la Convenzione. Faranno di tutto comunque per soddisfare gli standard di lavoro, per fare in modo che l'ispezione sia più veloce possibile. Questo questo sembra essere uno strumento molto efficace per promuovere standard di lavoro più alti, ma io sono scettico in quanto statunitense, ma allora e mi chiedo perché i datori di lavoro possono pensare che questo è un buon modo di lavorare, visto che loro si sono associati in un'associazione, poi invece l'OIL è arrivato con questo nuovo progetto. Beh, vi ho parlato bene di quello che è il bastone, adesso voglio parlarvi della carota. Nel diritto del lavoro collettivo non si è mai parlato abbastanza di quello che gli Stati Uniti che quelli sindacati possono offrire ai datori di lavoro. Sto parlando della carota, appunto. Se c'è la conformità con degli alti standard di lavoro in tutte le navi di trasporto, allora alla fine cosa si avrà? Il costo di lavoro non porteranno ad una concorrenza sul prezzo e quindi sicuramente il beneficio sarà per tutti. Quindi frequentemente negli Stati Uniti si pensa i sindacati non possono fare niente a meno che non abbiano un bastone, non vi picchiano con un bastone sulla testa, ma non possono farlo più perché c'è l'OIL. Ma questa è una carota invece che adesso possono offrire. La carota nel passato era dire all'industria automobilistica, negli Stati Uniti la carota sarebbe il sindacato dei lavoratori dell'automobile, avrebbero avuto lo stesso contratto in tutte le aziende che producono automobili e quindi non ci sarebbe stata concorrenza sul prezzo. Ma qui, per quanto riguarda la navigazione, il trasporto via mare, sicuramente si può offrire tutto questo, potrebbe funzionare. Questo è il settore migliore in cui puoi lavorare, perché non si possono importare l'automobile da un'altra parte, perché si tratta appunto di un trasporto internazionale che coinvolge tutti gli stati. E quindi in questo caso si può avere sicuramente un approccio transnazionale dal punto di vista dei sindacati. Sembra molto ottimistico tutto questo. Ma c'è un altro che è un pochino più effimero, l'altro approccio. E io credo che i sindacati stiano morendo perché sono ancora attaccati all'era industriale, ancora attaccati alla rappresentanza dei lavoratori nazionale, e quindi vengono divisi e conquistati dai datori di lavoro. Si tratta di un problema collettivo. Tutti i sindacati, se potessero lavorare assieme, sarebbero meglio, ma ogni sindacato nazionale, facendo del suo meglio per i propri lavoratori, probabilmente lavora allo svantaggio di altri lavoratori in altre parti del mondo, e questa è una barriera alla cooperazione tra i sindacati di tutto il mondo. Credo che debbano cercare di arrivare all'era dell'informazione. Io insegno agli studenti di legge negli Stati Uniti e dico: voi se diventereste membri di un sindacato se il vostro posto di lavoro ve lo permette? Molti mi dicono di sì. Io vengo da una scuola che lavora a favore della giustizia sociale, quindi i miei studenti, comunque molti di questi non vorrebbero diventare membri di un sindacato. Quindi per accogliere persone che lavorano nell'era dell'informazione, i sindacati veramente non hanno alcun contatto con i lavoratori dell'era dell'informazione, l'unico modo in cui possono farlo è attraverso nuove teorie. Ora, 5 minuti. Tanto si è parlato dei movimenti sociali, come si creano i movimenti sociali, la maggior parte della letteratura negli Stati Uniti guarda il successo dei movimenti a favore dei diritti umani, che poi ha portato alla legge del 1964, da tutto questo periodo, che è stato un periodo però che è passato negli Stati Uniti, ormai è terminato, purtroppo. E quindi come si crea un movimento sociale? Bisogna trovare una maniera per creare il potere dalla protesta, cioè bisogna trovare quelle questioni che uniscono i giovani che lavorano nell'era dell'informazione, che non si identificano come lavoratori nel senso tradizionale come facevano i loro genitori o i loro nonni, ma giovani che vengono coinvolti in altri problemi. Quindi bisogna identificare quelle che sono le questioni che possono unire i giovani, quali sono le questioni che possono mobilitare le persone attraverso i confini nazionali. Beh, non è una cosa facile, perché ciò che può essere molto efficace ed efficiente come principio organizzativo per far agire le persone in una parte del mondo magari non funziona in un'altra parte del mondo. Quindi negli Stati Uniti le questioni che coinvolgono i lavoratori dell'era dell'informazione sono questioni di boicottaggio di un brand, per esempio quando va a fuoco una fabbrica in Bangladesh, sono pronte a non acquistare i prodotti di un datore di lavoro che lavora in questa maniera. Ma il Partito Repubblicano negli Stati Uniti nel 2012 si era convinto che aveva vinto le elezioni semplicemente perché non aveva capito come Obama aveva invece raggiunto un gruppo completamente diverso di persone di colore, giovani, le aveva portati a votare per lui, qualcosa che non succederà mai ai repubblicani. Forse non è il presidente migliore degli Stati Uniti, ma comunque non è un repubblicano. Aveva delle tecniche di social networking molto sofisticate e i sindacati si devono unire ad altri movimenti sociali per riuscire a utilizzare le grandi capacità che vengono fornite dai social network per raggiungere quel pubblico che non è stato ancora raggiunto. E poi la seconda domanda è se possono avere delle questioni, dei problemi che siano in conformità ai bisogni di questi nuovi lavoratori. Beh, credo che a questo punto abbiamo fatto un viaggio veramente interessante, abbiamo cominciato a parlare del fatto che ancora dobbiamo avere il diritto del lavoro, invece passare alla common law, al diritto privato, poi siamo passati ad un nuovo paradigma che ci ha mostrato le innovazioni, che ci ha dimostrato che la prospettiva di controllo non è più valido, dobbiamo invece rivolgerci ai datori di lavoro, portare incentivi e poi abbiamo concluso con una prospettiva di come è possibile che una sorta di sindacalizzazione transnazionale venga creata e anche utilizzando queste nuove tecnologie che io ancora non so utilizzare. Quindi adesso cosa faremo? Beh, abbiamo una pausa esattamente ora alle 16:30 e questo succede solo se avete un presidente tedesco. E poi avremo 20 minuti di pausa, ritornate in tempo alle 5:10, ascolteremo Mia Ranmar che con un punto di vista molto più sofisticato cercherà di riunire assieme queste tre relazioni, ci dirà cosa dobbiamo pensare di queste tre relazioni e poi cominciamo il dibattito. Ci vediamo presto. Cheers. One of her predecessors was our friend Marco Biagi. I would like to ask you to try to keep within 15 minutes, okay? Yes. Go ahead. I will do my very best. Well, it's an honor and a pleasure to be here, to have been invited to comment. Queste relazioni così ricche in discussioni, in commenti, e la parte più difficile è stata quella di vedere su cosa commentare. Si tratta di teoria legale, quelle che sono le fonti della relazione del lavoro, e nella richiesta di relazioni gli organizzatori ci hanno chiesto di riflettere sulle sfide del diritto del lavoro a causa della crisi economica, della deregolamentazione, eccetera, e la possibilità dei diritti sociali di affrontare queste sfide. Quindi si sono trattate delle domande fondamentali sull'identità del diritto del lavoro. Ascoltando e leggendo queste presentazioni devo dire che ci sono diversi punti in comune che vorrei discutere. E vorrei discuterne questi temi che sono simili in tutte le relazioni, cioè la natura e la gerarchia delle fonti, il conflitto tra diversi ordinamenti legali. E il secondo tema è il collegamento tra il diritto del lavoro e altri diritti. Il terzo tema sono gli aspetti di regolamentazione e i ruoli di nuove forme di governance, e il quarto tema è quello dei diritti fondamentali, dei discorsi sui diritti fondamentali, e il quinto tema è la rappresentanza dei lavoratori e l'organizzazione dei sindacati. Il tema del pluralismo legale, le tensioni, i conflitti tra vari ordinamenti legali e varie fonti legali è fondamentale nella maggior parte delle presentazioni, sicuramente lo era nella presentazione di Catherine Bernard quando ha parlato di diversi aspetti della gerarchia verticale e orizzontale delle fonti legali nel contesto della direttiva dei lavoratori distaccati nell'Unione Europea, ma anche nella relazione di Michael Fisher sul ruolo della common law nel diritto del lavoro degli Stati Uniti. L'ambiguità di questo concetto e anche la tensione che esiste tra regolamentazioni scritte e la common law, e tra il livello statale e federale, e la sua discussione sull'interpretazione o piuttosto la mancata interpretazione del common law da parte delle corti. La discussione ci ricorda anche la necessità di avere una precisione e consapevolezza storica. Poiché la teoria legale è la base di questa sessione, io ho pensato che fosse giusto presentare una teoria che inizia dal pluralismo legale ed è un modo di affrontare questa realtà, è una teoria che forse non è conosciuta in tutta Europa o nel mondo intero, quindi voglio utilizzare questa possibilità di presentarvi la terapia di legge come pattern normativo in un settore normativo. Anna Christensen era una professora di diritto del lavoro nella metà degli anni 90 nella mia facoltà a Lund, e ha avuto grande influenza negli studi legali e giuridici, non solo da noi. E poi un libro è stato pubblicato lo scorso anno, I pattern normativi della dimensione sociale nell'Unione Europea. Il punto fondamentale iniziale di questa teoria è il fatto che la legge comprende una moltitudine di norme legali che sono spesso in conflitto, che non formano un sistema legale, un ordinamento legale gerarchico e coerente. Tra questa moltitudine di norme legali si può distinguere tra dei pattern normativi fondamentali. Questi pattern normativi indicano coerenza e significatività, quindi riflettono le pratiche e i concetti morali che sono centrali alle relazioni umane e alla società. Quindi questi pattern normativi possono essere dei poli magnetici nel campo normativo della legge. Il contenuto di queste regolamentazioni in qualsiasi momento viene deciso dall'attrazione di questi partner normativi, cioè quanto sono influenti in un momento temporale e come cambiano poi quando cambiano le condizioni sociali ed economiche. Quindi nel campo normativo lo sviluppo giuridico viene rappresentato attraverso un movimento in questo campo normativo. E se guardiamo alle singole norme, si può sembrare che un pattern normativo è completamente dominante, ma in realtà, proprio perché per la visione pluralistica del diritto che aveva Christensen, in un qualsiasi momento ogni norma legale viene influenzata da diversi pattern normativi. Quindi il ruolo e il compito dei legislatori e dei tribunali è quello di riequilibrare questi concetti normativi, questi pattern normativi nel quadro della legge. E voglio essere più completo. Cosa implica tutto questo per il nostro settore di studi, di relazioni industriali o di diritto del lavoro? In diversi studi della dimensione sociale, il diritto del lavoro, ma anche il diritto della famiglia, il diritto della previdenza sociale, i ricercatori hanno trovato tre pattern normativi particolarmente influenti. Il primo è la tutela della posizione ottenuta. Si tratta di un pattern conservativo che ha origine nel diritto di proprietà, che protegge il possesso del proprietario, e nel diritto del lavoro viene manifestata attraverso la tutela del lavoratore, cioè mantenere la posizione già ottenuta nella previdenza sociale. Si manifesta attraverso una indennità, per esempio, di disoccupazione, cioè si mantiene la posizione stabilita in un certo senso. Questo pattern normativo è in contrasto chiaramente con quello che Christensen ha chiamato i pattern funzionali del mercato, che si basa appunto sui concetti dell'economia di mercato, libertà di circolazione, libertà di commercio, e un altro pattern normativo fondamentale in contrasto con la funzionalità del mercato è la giusta distribuzione. Anche questo è un pattern protettivo, ma non è come quello della posizione stabilita, perché si tratta di un pattern di distribuzione correlato alla giustizia sociale. Questa teoria si è dimostrata essere uno strumento molto utile quando si tratta di portare avanti una ricerca comparata, e soprattutto quando si fa una ricerca storica, cioè rintracciare gli sviluppi nel tempo e paragonare diverse fondazioni normative degli ordinamenti di diritto del lavoro in vari paesi, per esempio. Quindi, per spiegare gli ultimi sviluppi nel diritto del lavoro negli ultimi anni, in un momento di crisi economica e di deregolamentazione, bisognerebbe vedere la tendenza del rafforzamento delle tendenze del mercato, non solo nel diritto del lavoro, ma lo troviamo anche nel diritto della famiglia, che è un'area ben distante dal diritto del lavoro. I ricercatori hanno inoltre dimostrato che c'è un movimento nei confini tra vari settori normativi, quindi c'è un movimento tra il diritto del lavoro e la previdenza sociale, che sono sistemi complementari tradizionalmente, quindi altri aspetti che venivano regolati dal diritto del lavoro adesso vengono coperti dalla previdenza sociale, quindi si è stata trasformata la protezione della posizione acquisita attraverso una sussistenza dei benefici sociali. Un altro elemento fondamentale è stato questo collegamento tra il diritto del lavoro e altre aree del lavoro. Abbiamo già parlato del collegamento con il common law, la legge del diritto dei contratti, ma qui la CUN ha sottolineato in maniera diversa la relazione esistente tra il diritto del lavoro e altre aree della legge. E lui parla di una una portata più ampia del diritto del lavoro, e sottolineando che la legge o i regolamenti sul subappalto, sugli appalti, possono portare ad una nuova governance con una potenziale di rinvigorare, di rafforzare il diritto del lavoro. E sottolinea anche questo processo continuo interessante del trasformare la soft law in hard law. Un altro collegamento molto importante tra il diritto del lavoro e l'altro, un altro settore della legge che è cruciale, è sicuramente il diritto del lavoro e il diritto alla migrazione, che serve a aumentare la protezione dei gruppi più vulnerabili. Io non posso fare a meno di parlare della Vale Viking Case, perché vengo dalla Svezia, ma perché molti dei relatori ne hanno parlato. Il caso Laval è stato approcciato in maniera diversa, è stato discusso come il riflesso del collegamento così difficile tra la natura brutalistica del diritto europeo, e si è parlato delle interpretazioni conflittuali e incoerenti del diritto alla contrattazione collettiva e all'azione collettiva da parte delle corti nazionali e europee, la Corte dei diritti umani europei, il Comitato europeo dei diritti sociali. Barnard ha espresso la sua compassione per tutti coloro che devono cercare di interpretare e applicare queste decisioni, e devo dire che il legislatore si trova veramente diviso su questo. Al momento il legislatore norvegese è molto silenzioso. Un altro elemento dei casi Salah di Laval riguarda un riflesso sulle sfide che i sindacati devono affrontare, le organizzazioni sindacali nei contesti transnazionali in Europa, ma sempre di più in un mondo sempre più globalizzato. In questo contesto i relatori hanno sottolineato degli esempi, delle strategie future per cercare di migliorare la situazione, alcune volte semplicemente da una prospettiva nazionale, alcune volte invece attraverso una prospettiva internazionale. Fischel ha parlato dell'organizzazione sindacale dei lavoratori a basso salario che sono immuni alle strategie antisindacali nel contesto degli Stati Uniti, e Michael Zimmer ha parlato invece di un esempio molto promettente che ha a che fare con l'organizzazione sindacale internazionale attraverso la convenzione dell'OIL sul trasporto marittimo, sui lavoratori del trasporto marittimo, che sicuramente è molto interessante come esempio, e sicuramente ha anche parlato di come i sindacati possono imparare dalle teorie dei movimenti sociali e dei network sociali. Per concludere, darò abbastanza tempo per la discussione, vorrei dire che queste presentazioni hanno tutte discusso delle tendenze, delle sfide per il diritto del lavoro. Io ho semplicemente cercato di fare loro giustizia, almeno parzialmente. Ci sono diverse prospettive teoriche che devono essere affrontate, e fortunatamente le relazioni hanno tutte presentate anche delle strategie future per affrontare queste difficoltà. In questo modo posso concludere con una nota positiva. Grazie, Mia, non solo per aver discusso queste relazioni, ma anche per aver presentato questa teoria che è nata nella tua facoltà, ed è una teoria molto interessante. Ora abbiamo tempo per la discussione, quindi vedo la prima persona che vuole fare delle domande, Roger, e poi gli altri che vorrebbero parlare, dovrebbero avvicinarsi, in modo che non ci vuole così tanto tempo per le persone ad avvicinarsi e a cambiare oratore. Thank you, I will be... Grazie. Mi limiterò a 4 punti, uno sulla CSR, sulla responsabilità sociale, un altro sulle soft law, uno sul perché i manager dovrebbero essere soci dei sindacati e poi sul potere. Innanzitutto la responsabilità sociale dell'impresa. Devo dire che non mi piace, è una strategia delle multinazionali per dire noi abbiamo la responsabilità, faremo tutto da soli, non abbiamo bisogno delle leggi, non abbiamo bisogno dei sindacati. Fidatevi di noi e noi faremo tutto da solo. Si tratta di qualcosa di una decisione unilaterale a favore dell'azienda, quindi vorrei una reazione da parte vostra per sapere se siete d'accordo o meno, ma questo è quanto credo io. C'è anche la soft law e c'è la hard law. Per esempio oggi, beh ieri non lo so, ma oggi ci sono le linee guida dell'OCSE del 1996, sono state adottate fino al 2011. Queste linee guida dell'OCSE sono molto importanti. Perché? Perché la soft law è soft law, ma si tratta di una soft... Ma quando le multinazionali non sanno cosa fare, allora fanno riferimento a queste linee guida. Quindi perché a quel punto possono dire che hanno lavorato sulla base di queste linee guida, e come dire noi siamo delle buone aziende, delle buone multinazionali. Non sappiamo bene quelli che sono i punti di contatto. In ogni paese c'è un punto di contatto nazionale che deve rispondere a tutti i problemi che nascono a causa di queste linee guida. Ci sono veramente decine di casi che vengono sollevati e discussi in ogni paese. Quindi io credo che le soft law siano anche queste importanti. Poi sindacati. Quando insegnavo, per 11 anni, a due gruppi, un gruppo inglese e un gruppo francese, c'erano molti paesi, molte persone, delle persone scandinavi, e chiedevo chi era membro di un sindacato. I manager dei paesi scandinavi dicevano sempre: noi siamo membri, ma non membri attivi, ma sono membro socio di un sindacato. E io credo che in alcuni paesi, con il 50-60% delle persone sindacalizzate, i giovani manager possono essere membri di un sindacato. Non c'è bisogno del 100% di sindacalizzazione per poter criticare il potere. Sia che, perché il potere ce l'hanno i sindacati, se sono solo il 50%, se bloccano le autostrade loro hanno potere. E quindi con questo concludo, grazie. Così. Grazie Roger. A questo punto aspettiamo le risposte dei relatori in seguito, ma adesso Giannis Bellacci. Yeah. Okay. Sorry, I have this. I just want to follow up. Vorrei far seguito a quanto ha detto Attila, la responsabilità sociale delle imprese. Forse perché sono americana, io credo che il termine è stato creato negli Stati Uniti, e anche negli Stati Uniti, devo dire, non c'è una definizione chiara della responsabilità sociale dell'impresa, quindi quando se ne parla si parla di cose diverse, persone parlano, intendono cose diverse, cioè come puoi essere contro la società, la responsabilità sociale dell'impresa? Nessuna società deve essere irresponsabile, ma il pericolo è ci si aspetta che le aziende rispettino la legge. C'è un articolo molto interessante che è stato scritto nel 2012, mi pare, alla fine del 2012, che è stato pubblicato nel Business Ethics Quarterly, che è la rivista più importante del settore, by Florian Westin, non lo conosco, penso che lavori all'Università di Zurigo. E nel suo articolo dice: è piuttosto curioso che le persone che parlano di responsabilità sociale delle imprese non utilizzano la terminologia dei diritti umani e sembrano, come dire, parlano attorno all'argomento dell'obbligo dei delle aziende di rispettare i diritti dell'uomo. E mi sembra come un autista che guida, se non c'è una segnaletica sulla strada, è la mia responsabilità vedere che c'è una persona che magari sta cercando di attraversare la strada, ma io mi devo fermare. Ma una volta che c'è un semaforo, anche se non c'è nessuno, mi devo fermare, non è una scelta da parte mia, mi fermo di fronte a un semaforo rosso. Quindi sto pensando al consiglio, ai principi guida del Consiglio delle Nazioni Unite. Per come lo comprendo, quello che è successo negli ultimi per 6 anni, c'è stato un grande dibattito nel Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite per vedere se gli obblighi potevano essere imposti su delle aziende. Ci sono dichiarazioni che sono state fatte con una società che ha detto non si può, ma le aziende hanno detto non possiamo, non potete obbligarci a fare qualcosa perché noi non siamo governi, i governi hanno la responsabilità, ma le aziende, ma questo non significa che le aziende o le società non abbiano responsabilità. Io mi rendo conto che il Consiglio sui diritti umani delle Nazioni Unite non possono costringere le persone, ma sicuramente la convenzione viene ratificata dai paesi, e se un paese ha ratificato una convenzione allora non è più soft law, se poi viene applicata è diversa, ma si tratta di hard law. Quindi io credo che sia un versante scivoloso quando parliamo di, ci muoviamo su un versante scivoloso quando parliamo di queste cose. Scusi, si presenti, non la conosco. Buon pomeriggio, sono Sara Hunger, sono ungherese. Ho una domanda per Attila Conte, non l'abbiamo discusso precedentemente, quindi non ho nessun pregiudizio. Ho una domanda che ha a che fare con i bilanci non finanziari. Devo dire che io non sono un grande fan dei bilanci non finanziari, ma io sono molto interessata a sapere se sa come verrà monitorato, come viene garantito che si tratta di un bilancio che sia valido e che sia vero. Ci sono delle misurazioni che possono essere fatte, ma non voglio dire nient'altro perché questa è la mia domanda. Grazie. Beh, tutte e tre le domande, se ho capito bene, sono dirette ad Attila e quindi dobbiamo dargli la possibilità di rispondere. Grazie, grazie moltissimo. Vorrei iniziare con il professore Blampin, la sua reazione. Come punto di partenza devo dire che sono completamente d'accordo, il microfono per favore. Vorrei cominciare con l'intervento del professor Blampin. Io sono completamente d'accordo con l'approccio critico verso la responsabilità sociale delle imprese, ma allo stesso tempo devo dire che alcune volte per una buona ragione noi possiamo anche dare la mano al diavolo. Ci sono delle ispirazioni, delle pratiche innovative nel settore del CSR da cui possiamo apprendere qualcosa, possiamo avere delle pratiche più volontarie attraverso delle leggi hard, magari riusciamo a renderle più meno volontarie, ma se aggiungiamo un po' di hard law sicuramente possono essere anche più efficaci. C'è un concetto che troviamo nella letteratura, che è la teoria dei segnali legali, è stato scritto da David Dury, e si tratta di un punto molto interessante che non posso spiegare per mancanza di tempo, ma l'idea fondamentale è che ci sono delle pratiche volontarie che le aziende eseguono a causa delle forze del mercato. E se si danno dei segnali legali che supportano queste pratiche volontarie, possono essere adottate su larga scala. Io non è che creda completamente a questi sviluppi, ma vedo che sicuramente c'è una possibilità. Noi dobbiamo vedere i pro e i contro, ma sicuramente queste tendenze ci sono e continueranno. quanto riguarda i principi guida delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo, citate da Giannis, sicuramente è un ottimo sviluppo, molto interessante. I principi dell'UNGP è stato il risultato di un forte compromesso. Il professor John Rogge, rappresentante speciale delle Nazioni Unite responsabile per l'agenda delle aziende e dei diritti umani, ha lavorato su questi principi guida per 7 anni. C'è stato un grandissimo dibattito tra l'approccio più forte, hard, e quello delle leggi soft, ed è per questo il testo riflette questo compromesso. Si possono trovare riferimenti sia alla hard law e a degli interventi legali, ma sono completamente d'accordo con lei, si tratta di soft law, dopo tutto si tratta di una dichiarazione che non può essere resa vincolante, ma ci sono dei punti da cui possiamo trarre ispirazioni per delle hard law. C'è un altro commento che è stato fatto dalla mia collega ungherese, non ce l'avevamo accordato precedentemente, mi ha chiesto del bilancio finanziario e il tipo di monitoraggio. Se noi applichiamo, come ho detto precedentemente, c'è una nuova proposta di direttiva a livello europeo sul bilancio sociale, per esempio, e questo sarebbe obbligatorio per aziende che hanno più di 500 dipendenti, che devono appunto avere un bilancio sociale. Si tratta di un grandissimo numero di aziende, è difficile monitorare questo tipo di bilanci da parte di un ente pubblico, e non è l'obiettivo questo del bilancio sociale e della proposta di direttiva sul bilancio sociale. Sono le parti sociali, le forze del mercato che devono promuovere tutto questo. Io so che si tratta di qualcosa di ambiguo e di non strutturato, ma questo viene lasciato all'opinione pubblica. Se ci crediamo o non ci crediamo, in qualche modo sta funzionando. Non può essere misurato in maniera oggettiva, ma in qualche modo ci sono dei prodotti, ci sono delle forze che stanno spingendo a livello di mercato verso questo. E poi un ultimo commento. Non credo che ci siano dei meccanismi alternativi normativi possibili, ma quello che ho visto nella mia ricerca, come noi tutti sappiamo, il diritto del lavoro è sempre più flessibile, è sempre più desocializzato, la tutela dei lavoratori in molti paesi viene eliminata dal contesto del diritto del lavoro. Se noi vogliamo avere ancora un po' di tutele, forse possiamo pensare a dei meccanismi alternativi in altri settori della legge, come ho detto, il bilancio sociale o le leggi sugli appalti. Prima di fare la mia domanda a Malsema, vorrei dire, Roger, che io vedo una contraddizione in quello che hai detto. Da una parte dici la responsabilità sociale delle imprese è qualcosa di molto debole, che non ha nessun significato, d'altra parte poi dici, parli delle linee guida dell'OCSE, guardi ai codici deontologici, nonostante tutto quello che hai detto dei punti di contatto dell'OCSE eccetera, qualcosa che viene utilizzato come strategia di mercato e non ha nessun impatto. Non sei d'accordo? Ok, va bene. Mike, ho una domanda per te. Come tu sai, si tratta di una delle cose che ho più a cuore, quello di ricollettivizzare il mondo del lavoro, e io mi chiedo cosa ne pensi della possibilità di accordi internazionali. Noi adesso abbiamo 100 accordi internazionali conclusi tra le federazioni sindacali globali e le sedi centrali delle società multinazionali. Questi accordi quadro sono molto interessanti poiché hanno sostenuto il rafforzamento del sindacato, perché nel processo di negoziazione di solito richiede 3 anni, si crea una sorta di cooperazione tra i sindacati locali e le federazioni sindacali globali. Questo ha un effetto enorme per il movimento sindacale internazionale. Secondo me è lì il futuro. Il mio caro amico Roger Blanpin è in completo disaccordo con me, ma vorrei conoscere la tua opinione. Beh, grazie. Io credo che da una prospettiva americana non esistano. Si tratta di una debolezza. Le multinazionali con la sede americana non partecipano a tutto questo, e questa è la debolezza fondamentale. Non voglio dire che non abbiano valore questi accordi quadro. Negli ultimi anni ho cercato di capire quelli che possono essere i nuovi e diversi modi per la ricollettivizzazione del lavoro, da molti punti di vista diversi. Abbiamo bisogno di più teorie, di più persone che lavorano su tutto questo. Abbiamo tantissime esperienze molto interessanti negli Stati Uniti per la protezione del lavoro quotidiano e la tutela di coloro che svolgono lavori di cura. Quindi veramente ci sono diversi modi per affrontare il problema dei diritti dei lavoratori. Ma vorrei rispondere un po' a Roger. Io credo che tutti noi siamo piuttosto scettici per quanto riguarda il bilancio sociale dell'impresa o la responsabilità sociale dell'impresa, ma dobbiamo prendere in considerazione la reazione dei consumatori. Guardiamo la Cina, per esempio. Quando tutti questi giovani ragazzi della campagna arrivano alla costa est della Cina e si hanno cominciato a buttarsi dalle finestre e uccidersi, la Fox fa tutti noi qui abbiamo uno o più dispositivo Apple Crap, come lo chiamo io, e sono tutti fatti a mano in Foxconn, in queste fabbriche. E ci sono tantissime persone che si suicidavano, che lavoravano lì. Ora, questo ha portato l'attenzione sull'Apple. Apple sicuramente è il marchio migliore, perché è il marchio che tutti i giovani in tutto il mondo vogliono. Se non l'hanno, lo vogliono oppure l'hanno già. Quindi sono molto consapevoli del danno che può portare il boicottaggio dei consumatori, e quindi la Apple ha costretto la Foxconn a prendere delle misure chiare per riuscire ad introdurre e applicare un codice deontologico. E adesso cosa succede? Non si hanno tanti marchi come l'Apple, ma ci sono tanti marchi, e si può riuscire a avere un impatto sul marchio, e questo è potere. I miei sindacati non si vedono come membri di un sindacato, ma si conoscono come consumatori e rispondono quindi al boicottaggio da parte dei consumatori. E poi Roger ha parlato degli scioperi degli autisti di camion, ma questo è illegale negli Stati Uniti. Quando ero giovane ho guadagnato moltissimo durante l'estate guidando, trasportando i mobili di tante persone attraverso gli Stati Uniti come autista. Io guidavo naturalmente per ore e ore contro ogni norma. Questo sindacato è adesso praticamente insignificante. Il Teamster adesso, se parla di uno sciopero degli autisti, non porterebbe niente, perché molti sono autisti indipendenti, mio cugino Alex, che non ha seguito il consiglio di mio padre di studiare e andare all'università, è adesso un camionista indipendente. Lui deve pagare il suo camion e paga migliaia di dollari al mese per il mutuo e quindi non si può fermare neanche per un'ora senza avere un impatto finanziario molto negativo. Quindi come si riesce ad avere il potere? Beh, la natura del potere sta cambiando e dobbiamo quindi capire bene dove sono i legami deboli. Lo sciopero dell'Honda, della fabbrica Honda, è stato fondamentale perché loro innanzitutto hanno portato una gestione già esclusivamente giapponese. Sapete che c'è un'ostilità storica tra i cinesi e i giapponesi e quindi i lavoratori non rispettavano la direzione non rispettava i lavoratori. Questa non è una cosa che va bene, non succederebbe mai negli Stati Uniti. La seconda cosa è che la Honda pensava di essere isolata dagli scioperi perché lo sciopero è illegale in Cina, ma questo è stato un approccio stupido. Quindi una fabbrica faceva tutti gli impianti di trasmissione di tutte le Honda che venivano assemblate in Cina, e quindi quando questi due giovani ragazzi che volevano lasciare il lavoro e ritornare a casa hanno detto facciamo sciopero, sarebbe divertente, e quindi hanno veramente fatto fallire la Honda in Cina perché era il legame debole. Quindi questo legame debole può essere concettualizzato nell'era industriale così chiaramente adesso, ma quello che devono fare i gruppi che lottano per i diritti dei lavoratori devono trovare questi legami deboli. Foxconn era il legame debole per l'Apple e quindi ha dovuto cambiare. Quindi non bisogna bloccare l'autostrada, ma piuttosto, come possiamo vedere, come bloccare internet. Allora questo avrebbe un impatto. Ulteriori commenti, domande? Io so bene come far stare tutti zitti. Just a quick comment on social. Un breve commento sulla responsabilità sociale. Stavo pensando all'origine di questo movimento e io credo che voi sappiate che è iniziato all'inizio degli anni 70, a fine degli anni 60 negli Stati Uniti. E Newton Friedman ha scritto un articolo e lo ha pubblicato nel New York Times e lui era contrariamente contrario al fatto che la direzione fosse coinvolta nella responsabilità sociale. Aveva detto che l'unica responsabilità sociale delle aziende era quella di generare l'utile. 32 anni dopo l'Economist ha pubblicato un articolo con esattamente la stessa argomentazione, ma io credo che oggi non l'avrebbero più pubblicata. Quindi naturalmente c'erano delle riserve su questo, ma è una realtà. Le aziende devono prendersi cura degli stakeholders e questo è qualcosa che deve essere preso in considerazione. Certo, uno degli errori che noi potremmo fare è attribuire molto più potere al comando e controllo, al hard law rispetto a quanto se ne meriti. Infatti si può pensare che il comando e controllo possa avere importanza e invece è risultato essere un legame debole. il titolo 7 della legge del 1964 negli Stati Uniti, la regolamentazione del sexual harassment, delle molestie sessuali, sono state trasformate in un hard law, ma adesso si tratta soprattutto di pratiche di management, pratiche istituzionali, in un certo senso sono una sfida al patriarcato e perseguono tutte le persone romantiche che lavorano in ufficio, ma nello stesso tempo hanno creato un grande cambiamento nella vita degli uffici. Il meccanismo di controllo è molto spesso il punto di partenza per il modo in cui le organizzazioni di lavoro, i datori di lavoro possono rispondere. C'è un altro pensiero che vorrei sottolineare: molto dipende dalla mobilità sociale. Un codice di responsabilità sociale magari non è tanto, ma poi magari si ha un movimento contro le fabbriche che sfruttano l'università o una tragedia come quella di Foxconn, allora le persone cominciano a organizzarsi, anche a prendere delle azioni. Tutte le storie di successo negli Stati Uniti negli ultimi anni, i domestici, le persone che lavorano nelle case, con lavori di cura, sono stati guidati da un grande movimento sociale per ottenere quei diritti. Quindi, sia che si tratti di soft law o hard law, io credo che le azioni si svolgano altrove. Le azioni si basano sulle reazioni delle istituzioni e sulla mobilità sociale. Agree with that. If I may add something, we were seeing that the trade unions do have. Abbiamo visto che i sindacati hanno problemi in questo momento. Alcuni ritengono che sono organizzazioni oramai da anziani, da vecchi. I giovani non si organizzano più in queste forme, né attraverso il sindacato né attraverso altri istituti. E non sono sicuro, perché in Germania, nel mio paese, abbiamo il sindacato del settore metalli che hanno iniziato da poco una nuova campagna, hanno utilizzato i consigli aziendali come delle agenzie vere e proprie per raggiungere i giovani, no? Una sorta di strumento al loro servizio, come lo sono i social media, no? Con un risultato fantastico. Il sindacato del settore metallurgico non solo ha aumentato il numero di iscritti, cosa unica oggigiorno, ma moltissimi sono i giovani che hanno aderito. Quindi se si cerca di mettere in atto una strategia che si incentri su questi gruppi, bisogna naturalmente avere successo sempre con una certa attenzione, perché tutto questo può funzionare in un ambiente che è union friendly, no? E che è favorevole al sindacato. Nel mio paese i sindacati non sono contestati per motivi molto semplici: dopo il periodo bellico i sindacati divennero un fattore molto importante nel paese, cosa molto diversa invece da voi, no? Da voi l'attività sindacale è quasi uno sport, il che fa una grossa differenza, però diciamo che almeno ci sono delle condizioni, dove ci sono delle condizioni diciamo amichevoli, allora si possono ottenere molti risultati. Mi sembrate tutti molto stanchi, ci sono altri commenti? Se così non fosse, faccio qualche annuncio prima della chiusura, e cioè non faccio una conclusione, diciamo, dei lavori di oggi, perché non avrebbe più senso, avete sentito tutti ciò che non avrebbe senso, è inutile, no? Quello che farà Janice fra un attimo è proprio questo, quindi io faccio questo annuncio, il primo annuncio, che è per coloro di voi che lavorano nel settore della labor law, quindi la legge, la legislazione lavoristica, questo è un gruppo di persone che ha interagito oramai da molti anni. Abbiamo tenuto la nostra prima conferenza a Barcellona con più di 300 ricercatori che si sono riuniti e negli anni prossimi, a partire dal 21 al 27 di giugno del 2015, ci sarà il prossimo congresso di questo gruppo ad Amsterdam, Università di Amsterdam, organizzato dall'istituto locale che viene dall'istituto olandese. C'è il collega, è già partito, anzi la collega, che mi ha chiesto di annunciare l'evento. Vabbè, non c'è più pazienza. Secondo annuncio: l'anno prossimo nuovamente, quindi nel 2015, l'International Labour and Employment Association e l'International Relations Association terranno il loro congresso mondiale per la prima volta in Africa, in Sudafrica, Cape Town, nella prima settimana di settembre dell'anno prossimo. Quindi segnatelo, mettetelo a calendario e tenete le date, prima settimana di settembre dell'anno prossimo a Cape Town, Città del Capo. Subito dopo, nella seconda settimana del mese di settembre 2015, ci sarà il congresso mondiale della International Society for Labour Law and Social Security. Coloro che vanno a Cape Town avranno il privilegio di partecipare a due convegni e naturalmente dovranno prolungare la permanenza e quindi arrivare a due settimane. Io vi posso dire che insegno a Cape Town, sono professore onorario dell'Università di Cape Town, vi posso dire che è una città fantastica, quindi non ve ne pentirete. Quindi alla fine di questa sessione volevo appunto annunciarvi tutto questo ringraziando i nostri speaker, ringraziando i discussants, ringraziando tutti coloro che hanno partecipato alla discussione e ora concludo chiedendo a Janice di trarre le fila della sì. Non mi voglio frapporre fra voi e il bel pomeriggio modenese che è ancora alle porte, non so se è inutile, ma in realtà è impossibile trarre le fila di due giornate come queste, così arricchenti e su argomenti così diversi. Due note personali, una conferenza come questa in realtà consente di apprendere molte cose nuove. Poi ci sono personaggi come te che hanno sentito queste cose per anni. Io quando studiavo alla London School of Economics la mia tesi si intitolava La fattibilità della contrazione collettiva multinazionale nell'Unione Europea. Alcuni ricordano COP, che l'hanno ricordato l'European Trade Union Institute. Io volevo parlargli e una volta mi disse: ma forse nella tua vita, non nella mia. La mia sensazione è la stessa in questo momento. E la seconda cosa è pensare a Marco Biagi. Sappiamo che per molti anni Marco ha tenuto la Summer School a Bologna, periodo molto informativo, esperienza grandemente, fortemente formativa, ma un anno, non ricordo esattamente quale fosse, forse il 90, o il 98, scusate, una sessione, il motivo per cui ero arrabbiata era che mi fu chiesto di spiegare qualcosa sulla posizione delle aziende americane. Lo feci, fui attaccata e dissi: beh, mi chiedete di spiegare la posizione americana, non sto dicendo che è la mia, ve la spiego, ma la questione era la globalizzazione, no? E ho detto in quell'occasione che uno non è che può metterla testa sotto la sabbia, no? In certe occasioni, ma mi ricordo di aver detto cosa farà l'Italia quando le aziende italiane inizieranno a esternalizzare il lavoro fuori dall'Europa, no? non so, compri una cosa di un designer, l'etichetta riporta il nome di quel designer, ma il prodotto non è fatto in Italia, e tutti mi hanno detto va, non succederà mai, no? Sappiamo come stanno le cose, quindi sappiamo anche cosa è accaduto negli ultimi 15-20 anni e la trasformazione è stata incredibile, un mondo globalizzato, ma tutto questo ha avuto i suoi effetti, no? Ora consideriamo un paio di tematiche, non voglio trattenervi, più di una persona ha parlato delle relazioni di potere, no? E anche dell'economia che rappresenta una forza primaria nelle relazioni industriali che la legge secondaria, ma in realtà la funzione della legge sul lavoro è di cercare in qualche modo di sostenere l'economia. Abbiamo visto quindi due cose accadere, cioè se i datori di lavoro possono spostare il lavoro fuori dal paese per portarlo in luoghi dove il lavoro è a minor costo, questo naturalmente riduce il potere della forza lavoro, l'abbiamo visto oramai negli ultimi 20 anni, dove molto del nostro lavoro è stato delocalizzato in Asia, e se i lavoratori possono portare del lavoro a basso costo nel paese, pagarlo meno, questo naturalmente fa diminuire il potere dei lavoratori, e per quanto riguarda la direttiva sul lavoro sui lavoratori distaccati, lo abbiamo già visto, no? Si sarebbe potuto pensare di avere tutta una serie di tutele, di protezioni, per esempio che gli elettricisti però o altri artigiani hanno delle serie difficoltà. E poi si parla di libertà di servizi nell'Unione Europea, questo ci riporta al XIX secolo e alla parola libertà. La libertà ci piace, ma il modo di utilizzarla secondo me può essere una visione distorta. Libertà per chi? Libertà di fare cosa? Pensavo al XIX secolo e alla common law, dove si parlava di libertà di contratto, con un caso famoso negli Stati Uniti all'inizio del XX secolo, quando nella città di New York fu approvata una legge che limitava a 14 ore soltanto l'orario di lavoro quotidiano, e la Corte Suprema diceva che questo toglieva ai lavoratori la loro libertà di contrattuale, no? Di lavorare cioè di più di 14 ore. Capite quindi il concetto di libertà per chi, come, cosa? Se ne è parlato anche nella sezione di Catherine, è un dibattito che va rinnovato e va rivista la terminologia, perché la terminologia è un po' come una sorta di attività di pubbliche relazioni, no? Che serve, ma in alcuni momenti può distorcere i significati delle cose. I sindacati nazionali si sono organizzati, hanno sviluppato le loro strategie all'interno delle economie nazionali e fino a poco tempo fa sulla base di un modello industriale. Oggi con la globalizzazione i datori di lavoro non sono più legati alle economie nazionali e in particolare per la produzione possono scegliere economie meno regolamentate, come si diceva, possono resistere alla soft law, possono scegliere dove produrre, dove hanno la maggiore libertà produttiva con i minori, con le minori limitazioni possibili, no? Prendiamo il Bangladesh. Perché tutte le aziende stanno correndo in Bangladesh per far fare, che ne so, abiti, vestiti, eccetera? Ci sono paesi vicini, ma perché vanno proprio in Bangladesh? Il motivo appunto che se la legge esiste o meno lì, in realtà lì tutto è più semplice, ci sono dei codici di condotta che sembrano però che in realtà loro in realtà sembrano non sapere che magari un edificio nel quale hanno un sito produttivo è pericoloso o pericolante. Walmart per esempio ha detto che il suo subcontractor non era autorizzato, ma il contratto di 450.000 abiti è stato effettivamente fatto lì, è stato fatto dai subcontractor. È difficile credere che loro non sapessero appunto dove fossero fatti gli abiti, e quindi specialmente coi brand rispetto ai produttori diretti, ai direct manufacturers, beh, è con loro che esiste la vera sfida. I prezzi ridanno una forma diversa alla loro organizzazione affinché insomma, diano forma ai sistemi produttivi. Per esempio, boicottare un brand, un'etichetta, magari vuol dire che porterà semplicemente a un rebranding, a un renaming, ma non di più. E le nuove tecnologie, noi dovremmo capire rispetto alle nuove tecnologie come mobilitarci su questi temi. Salterò qualche sessione perché fra una cosa e l'altra ieri ho dovuto anche insegnare. Stamattina sono stata colpita da un'altra cosa, cioè la forza dell'economia. A volte quando scriviamo delle leggi abbiamo una visione limitata del funzionamento del mercato del lavoro, pertanto cerchiamo di raggiungere l'uguaglianza e nel farlo ci dimentichiamo alcune cose. Questo per esempio con la teoria dei diritti individuali, quando le questioni invece sono di carattere collettivo. Come donna dico che mi scocciano quei libri che ti dicono alla donna come si fare le cose per evitare di essere una donna, come si fa cercare di avere più autorità, come fa un uomo, come si può fare. In realtà dobbiamo guardare la struttura globale come individui in modo tale da capire se ci stiamo perdendo qualcosa. Se una persona intende discriminare, insomma, questo è grave, però se sei la vittima della discriminazione questa cosa ti tocca ancora di più. E cosa rende le persone meno competitive sul mercato del lavoro? Per esempio negli Stati Uniti una donna può scegliere se avere un figlio o meno, e quindi sì, è una scelta privata individuale, ma noi vorremmo che l'85% delle donne avessero figli, altrimenti non avremmo una prossima generazione alla cui guardare, no? Quindi dobbiamo dire, aspettate un momento, se questo è un comportamento socialmente auspicabile, allora bisogna anche prendersi cura dei piccoli nei primi 6 mesi di vita, quindi come possiamo dare o rispondere alle esigenze di quelle persone che danno questo servizio sociale, non è una questione individuale. E poi parliamo del non considerare tutto il ciclo di vita dell'adulto, cioè la compensazione. Se tutti i lavoratori fossero uomini, il salario sarebbe diviso in termini temporali durante l'arco della vita, pertanto questa dovrebbe essere differita in modo tale da pagare anche la pensione tramite contributi diretti ai fondi pensioni o tassazione sul lavoro subordinato eccetera, ma da qui che vengono i soldi. Anche per le donne dobbiamo trovare delle tutele e cercare un modo sostenibile di finanziare anche a un buon livello il fatto che le donne, anche se a un certo punto diventano anziane, vanno in pensione, quindi garantire anche a loro queste condizioni. E poi sono in favore della corporate social responsibility. Morgan Freeman forse ha detto l'unica cosa sulla quale sono d'accordo. Se uno legge tutto l'articolo, che è molto provocatorio, a lui non piaceva una cosa. Negli Stati Uniti un'azienda magari da milioni di dollari a sponsorizzare una certa produzione e poi il presidente dell'azienda, che ne so, va al board, al consiglio di amministrazione dell'opera e nessuno dice guarda questi sono i soldi dello shareholder, no? Dell'azionista. E quindi in realtà bisogna anche dire che l'azienda oltre a questa deve rispettare le leggi. E questo è un requisito essenziale, quindi è una questione di responsabilità sociale. Gli stakeholder sono importanti, ma devono anche obbedire alle leggi in vigore. E molte questioni possono essere citate in questo senso. Importanti sono anche gli International Framework Agreement, gli accordi quadro internazionali, quindi le due parti di un contratto devono essere sempre in d'accordo, molto più, non soltanto in sostanza, ma anche sul lato monetario, no? E adesso mi fermo e dico che l'anno prossimo dovremmo forse concentrarci sulle relazioni di lavoro e trasformazione dell'impresa nell'economia globale. credo in realtà che sia una considerazione che viene spontanea, la supply chain, i contractor indipendenti, eccetera. Questo ci darà sicuramente l'opportunità di sviluppare, di portare avanti ulteriormente la discussione di queste splendide due giornate e io desidero ringraziare tutti coloro che hanno davvero organizzato al meglio questo incontro, non li cito tutti ma vi ringrazio per aver partecipato, grazie. Have a nice evening and those who travel have a safe journey and we see each other next year.